non so, giocate a briscola, fate qualcosa. Ma in realtà è che sono a quanto pare lavoro con tipo 16 gruppi diversi, quindi essendo solo 5 E uno di questi è Tycoons and Dragons. Benvenuti al Sì, devi conoscere tutti. 17° episodio della Cioè, non maledizione di devo andare a Kappa. ogni cazzo di group meeting e quindi sono 2 al giorno. Siamo in diretta E e uno ci di potete questi è. seguire sui canali social di Tycoons and Dragons, Seri GDR. Oggi, come vedete, siamo numerosi. Salutiamo chi non ha voluto questa responsabilità di essere qua. Luca Lazzarini, Francesco Arcidiacono e Stefano Gamberoni che non ci seguiranno, ma noi li salutiamo lo stesso. Mentre invece, con me Andrea Giacomacchi da Bologna, abbiamo Giulio Bosi, Enrico Catabriga, il master che ormai tutti conoscete, e da Copenaghen, in Come va collegamento, col piede? Edoardo Saladini. Sono a Mi dice ancora un po' gonfio e non riesco a piegarlo. Però Fredriksberg, non mi fa piegare. è una città all'interno di Copenaghen che è Ridente stata inglobata sub. nell'espansione della città. È come se Bologna Ridente. si fosse allargata oltre Casalecchio. Vabbè, era una città, adesso sarà un quartiere. No, è ancora una città. Ah, ancora fa municipio a parte. Il municipio è rimasto a parte. Ridente Va benissimo, va bene sobborgo. su questo, va benissimo. Ah, qui c'è il sindaco Fredriksberg. Vabbè, come? Questo non lo so, però vale Beh, lo vabbè, c'è stesso. anche il sindaco di San Lazzaro È e di vero. Casalecchio, in fondo. E di Sì, Caldetano. però è come se Bologna fosse oltre, capito? Cioè, tutto Ma intorno. Bologna è oltre. Oh. Ah! No, nel senso, come se, per esempio, che cazzo ne so, Dola fosse ancora Bologna. E Ponte Ronca? È strano, effettivamente. Perché dice che il municipio si è espanso di Ma di solito Copenaghen, ma quando. quello di Fredriksberg è rimasto autonomo. Quindi Copenaghen sta crescendo attorno a questo posto? Strani danesi. Loro resistono. Cresciuta attorno a questo posto. Va bene, dopo queste nozioni di geografia o geopolitica che sia, direi che possiamo senza indugio passare. Ah, io che devo mettere la sigla. Qualcuno che deve fare riassunto. Qualcuno che deve fare il riassunto. Dai, Allora, facciamo facciamo spezzoni. ognuno la sua parte, giusto? Quindi iniziate pure voi e poi inizio io. Allora, No, aspetta, ho sbagliato, metà, no, più di metà di noi non c'è, però Vabbè, vabbè. tutti quelli che hanno fatto la mia parte ci sono. Come la Esatto. vogliamo mettere? La parte della maggioranza del gruppo è, dopo essersi riuniti, si rientra nell'abbazia pensando di trovare Vardistran, che invece non si trova. Lo cerchiamo, non lo troviamo. Oh, fortuna. E facciamo la conoscenza di Esmeralda, che sappiamo essere una discola cacciatrice, sì, ci Non è che proprio sia stata una puntata così epica, comunque. speravo fosse questa. Quindi il tuo riassunto, Giulio, deve essere lungo. Sappiamo che Esmeralda è Siamo la giunti alle discepola della porte! cacciatrice, Lo del sanno cacciatore. sicuramente Patk e Garrosh. Ok. Non so se lo sapete anche voi, ma è plausibile No, che ve sì, mi l'abbia sa che ci detto. hanno detto. Io lo so. Tu lo sai. Ma non posso dire. Quindi abbiamo Poi. continuato a cercare Vardistran, anche un po' preoccupati perché sto qua se n'è andato con Irina. E chissà fare cosa, Chissà perché fare cosa. No, perché la forse Buzzone. riuscite a allargarlo? Vabbè. E con questo abbiamo un po' analizzato lì la planimetria dell'abbazia. Poi io in realtà mi sono fatto fare un giro al cimitero, ho visto una bella tomba che mi è piaciuta molto, però vabbè, non stanno qui. Tomba di Tomba della sorella di Kevin, Sole. quella che venne uccisa. Tomba vuota, sembrerebbe però. Commemorativa. Commemorativa. Ma raccoglie almeno una decina delle pietre scagliate. Fatta da non si sa chi. Fatta con le pietre scagliate. Qui giacciono le Esatto. pietre che ho ucciso. E poi Patk, il druido, evoca degli animali per cercare Vardistran. Mentre Race lancia il suo pipistrello famiglio per la stessa cosa. E a un certo punto immagino che Patk si accorga che alcuni dei suoi animali sono morti, visto quello Che sapete? tutte le domande che hai fatto sugli, sugli animaletti. I mogrel, come si chiamano? Mongrel. Ah sì, vabbè. I, aspetta, i... La famiglia Bellevue. Bellevue. Vabbè, io ho... vabbè, non c'entra il riassunto, ma non... è una mia cosa personale. Sono diventato migliore amico dell'abate e mi sono... Comunque ci sta, lui. Tipo che i mostri siano i francesi in questo... E quindi mi sono fatto spiegare un po' tutte le cose. È finito. Ah no. Ha anche fatto delle offerte. Il come, il perché, sì, ma quello non ero interessato io, avevamo chiesto gli altri. Se ci ha offerto di curarci in cambio di pezzi di corpo o di sostituzione di pezzi di corpo, ma sono già ha già provato strat per me, quindi peccato la prossima volta. Mi aveva anche offerto, oltre la possibilità di essere, diciamo, curati, anche essere resuscitati, ma nessuno di noi per ora è morto. Dice se, insomma, cioè, ok, qualcuno di noi è morto effettivamente, ma tipo alla puntata 1 o 2. Oddio, tornare indietro. Oddio. Appunto, vi dice se voi mi aiuterete con la mia ricerca dell'abito da sposa, potrò ricompensare nel resuscitare qualcuno. Sì, vuole un cazzo di abito da sposa per, la, per il golem di carne. Perché lui è convinto che... che da questa cosa liberi dalla maledizione strana. Esatto, quindi vuole... Anche se non sarà così. No. Lui è fermamente... crede fermamente in questa cosa perché gli è venuta... Sì, possiamo vedere la mappa della municipalità di Frederiksberg a Copenaghen. Fa veramente ridere. Sì, sì, no, fa veramente ridere. Bene, salutiamo i nostri fan di Frederiksberg. Ci espandiamo in Norvegia, in Danimarca. Prima la Svezia, penso. Dobbiamo espanderci da lì. È più vicino alla Svezia. No, sì, nel senso stiamo espandendo in Danimarca. Ah, ci sono già espansi. Stiamo già puntando, ok. Puoi attraversare il confine, così andiamo in Svezia. Va bene se facciamo una... facciamo una, un episodio in 26. Perfetto, ok. Io l'ho fatto da Montenegro, quindi facciamo 2-2. C'è un mega collegamento Montenegro. Bene. Vabbè, infinito, avevi privatamente e devo pregare con anche con lui e appunto ti si era offerto di darti, non so, un po' di consolazione spirituale ai tuoi, alle tue pene. Cate, è finita la canzone, puoi rimetterla da capo. No, nel frattempo cioè Giulia ha finito il suo coso, c'era cioè il tempo perfetto per me e doveva farmi aggiungere cose di nulla. Esatto, l'hai tolto. Posso fare io adesso? Sì, puoi fare tu. Allora, io sono salito in cattedra. Ma Irina trovava sconveniente evidentemente salire con i piedi sopra la cattedra. Quindi siamo andati a cercare, siamo fuggiti da questo, da questa oscura abbazia e dai nemici del popolo. Quindi siamo andati alla ricerca di Casimir e abbiamo scoperto che si trovava, come era immaginabile, dal borgomastro. Dal borgomastro abbiamo quindi incontrato anche il borgomastro, il cui nome non è così importante. Borgomastro. Che ci ha presentato i suoi figli, sua moglie, solite cose. Suo figlio a quanto pare è stato società Kretzke. Kretzke è Kretzkov. Che originalità. E il figlio è Kretzkov. No, figlio di Kretzkov, quindi Kretzkov. Kretzkovic, non lo so. Kretzkovic. E cosa hai detto? Ci ha detto che praticamente il figlio è stato riportato in vita dopo giorni di cui era morto da parte dell'abate. Per ringraziarlo, il borgomastro ha aderito alla sua campagna per un abito per la sosia sbavante di Irina. Ilya Kretskov si chiama il figlio. Esatto. Io in realtà non è che fossi proprio così convinto, ma siccome lui minacciava perché pensava che noi avessimo, che io avessi distrutto il mercato, invece in realtà è stato un fulmine di Strad. Che cercava di colpire voi, quindi non è che siete proprio innocenti. Comunque, Comunque non era un mercato, era un capito. gazebo, tipo. Cioè. Vabbè. Ah, era una cosa importante, ci teneva. Due Falegname, Comunque, fatto sta non ce li hanno. che io Non hanno falegnami. mi sono offerto di andare, cioè più che andare a Vallachi, di interpellare una persona che potrebbe recuperare il vestito da Vallachi, pensando di incontrare, anche sentendo, diciamo, quello che era un po' il consiglio di Casimir, il bardo che abbiamo incontrato a Vallachi, che si chiama, Nava, Rictavio. Rictavio, alla torre, sperando che lui abbia qualche notizia in più. Inoltre, Casimir mi ha detto che lui sa dove potremmo trovare la famosa informazioni legate alla distruzione di Strad, ma che per arrivarci non siamo ancora, non saremo neanche pronti in toto. Io gli ho raccontato dei miei dubbi sul resto della compagnia e della conoscenza di Esmeralda. Lui è rimasto molto interessato, ma è convinto anche egli che il suo tentativo di prendere il soppiatto Strad sia disperato. Quindi la nostra idea sarebbe, sperando, Molte poche sarebbe probabilità di di riuscita. raccogliere qualche informazione su dove possa essere magari il cacciatore, così da magari convincerla a desistere momentaneamente dall'intento e unirsi a noi invece in una fuga nelle terre di Strad, alla ricerca di esperienza maggiore. Al borgomastro poi ho detto che non c'è da fidarsi Degli degli altri. altri e che se dovessero cercarci e di dirgli che siamo andati alla vigna, Esatto. cosa che poi però potrebbe anche succedere, quindi. Prima di proseguire, sì, poi ci sono stati l'arrivo dei lupi che sono stati uccisi però dalla guardia di Kreskov. Esatto, sono entrati da in qualche modo dei lupi E nella ti volevo città, chiedere. una scimmia, un lupo, un po' di zoo. Ah, poi lui ci ha dato un mulo e il suo scudiero. Però sono cinghiali. Però volevo chiederti, Un Casimir ha ancora il serpente suo cavallo, volante, ma sì. quello. Ma anche voi avete i vostri cavalli. Perché Io e Irina sicuramente no. no? Ma perché siamo usciti. Cioè, o Voi dai cavalli. siete entrati in città con i vostri cavalli, o Sì, sbaglio? ma io e Irina. No, Mezzo, tu sei l'unico paladino che non può evocare su un cavallo. adesso io mi evoco Adesso l'alce. può farlo, è In vero. realtà. Scusa. Però volevo capire se gli altri avevano una cavalcatura. Spero di sì. Gli altri chi? Irina e Casimir. Beh, con cosa siete arrivati qui? Magari con i cavalli, ma poi sostanzialmente Effettivamente noi non abbiamo una cavalcatura. alla fortezza, Ah, perché abbiamo lasciato il perché siamo carro. arrivati in carrozza. alla fortezza siamo andati a piedi e poi siamo Ah, scappati all'abbazia siete andati a all'abbazia. piedi. E poi siete tornati indietro, quindi in teoria i cavalli sono qui dove siete voi. Ah, vabbè, allora riprendiamo. Io però non mi ricordo quanto tempo mi ci vuole per evocare l'alce. Find Steed. E poi soprattutto non so se vuoi fare prima me o Giulio. O Giulio se. Penso che partirò con gli amici all'abbazia. Va bene. Allora intanto io ci Nel guardo. frattempo voi state andando alla torre. Noi sì. 10 minuti. Comunque, Catta, Vabbè, allora fuori, cioè, scusami Giulio, quando abbiamo un momento di riposo mi metto a evocare l'alce. L'altra volta non ho cercato gli eventuali passaggi. Esatto, non li avevate trovati. Non li avevo trovati. Però visto che i lupi avranno, cioè per seguire le tracce avranno annusato, saranno andati. È un'ottima domanda, vediamo se ce l'hanno fatta. Sono già morti, sono andati a caso. Ah, sono scesi in villaggio e a quel punto magari hanno trovato la traccia. Però no, potrebbe. Però io avevo chiesto anche a Rabate se c'era qualcuno dei suoi che sapesse quelle tracce. Ah sì, probabilmente sì, però non è magari il caso di far uscire da questo punto. No, solo dentro. Ah, nel puoi chiedere a... Bene. A Otto. Si chiamava Otto, vero? Quello con il muso. Quello esatto. Stupido. Quello stupido. No, il mio amico era l'altro. So. Siegfried. Sì. Sì, Otto. Cioè, tutti e due erano forse. Allora, chiedo aiuto. Otto. Beh, ciao bello. Ciao. Cosa fai? Senti, ti ricordi il mio amico Varistra? Sì, Varistra. Ti è andato da mangiare. Esatto, bravissimo. Ti ricordi il suo odore? Sì, sapeva un po' di vecchio muffito. Sì, beh, classico da Varistra. Non è che riusciresti a rintracciare, a parte le stanze dove ha dormito, dove può essersi diretto? Ci posso che provare. Che percorso ha fatto dentro l'abbazia, almeno. Si mette ad annusare in giro. Comincia a seguire una pista che lo porta nell'orticello. Qui è dove ci sono alcuni campi e degli spaventapasseri. Ci sono un canale di scolo. In questo canale classico, di scolo, sempre i canali di scolo, come il fosso di Hermes insegna. Esatto, come il fosso di Hermes insegna. E piccolo canale di scolo. Arriva lì, però poi si ferma perché questo canale raccoglie tutto quello che sono le deiezioni del mattatoio, che è questo qui. E l'odore è talmente forte e nauseabondo qua all'esterno. Così sono 400-500 l'altezza di questi livelli. Ah, non so. Cioè arriva fino a 1000 metri? No. Sì, è abbastanza. Piedi sono. Ah, piedi. Allora che schifo. Comunque. Lui si ferma lì e dice da qui lo riesco più a seguire. Lo ringrazio, poi dopo il cibo. No, cosa di carne secca. Grazie signora. E lo mangia di gusto. E boh. E poi mi avvicino al canale di scolo e controllo che ne so le sbarre. Va bene, fammi un investigation. Cioè, se non hai l'abilità, io la proficiency. No, investigation ce l'ho, quindi posso tirare con vantaggio. No, se mi aiuta, posso tirare con vantaggio. Se ti aiuta, può tirare con vantaggio. Ok. E granito, un 3 e un 5. Che diventano. Vabbè, non c'è niente. Il 5 diventa. Niente, 9. Non hai idea di come abbia fatto a passare da qui quel grasso vecchiaccio. Non trovo la sbarra che si, sì. Che si toglie. Vabbè, strano. Strano. Senti, parlerò con l'abate. Appunto, senti i tocchi di una campana e venite invitati a fare una delle funzioni religiose. No, ma no, in mezzo. Prima del pranzo. No, ok. E quindi se Se vuoi, l'abate ti si offre di, insomma, parlare con te, confessarti. Oh, ma no, aspetta, mi stai. Oddio. Ah. Cosa fa? Sono sdraiato. Mentre tu giri all'abate. No, vabbè, ma possiamo farlo anche su tre livelli. Comunque, nel frattempo fa effettivamente ridere il tuo borgo. Perché nel frattempo, scusa, i... non ci credevo, poi ho visto il Girip ed è tipo un altro camp. I lupi così saranno... Cioè, in parte si sarà accorto. Nemmeno prima. Beh, diciamo, nel tempo che ci ha messo Otto a cercare la pista... No, in teoria ci sono le bestie sono ancora in cerca adesso, non sono ancora state uccise. Vabbè, allora, no, c'è sta funzione. Va bene, allora. E il pipistrello invece? Il pipistrello è lì che svolazza. Ma lì che svolazza, deve andare a cercare... è lì che sta andando in città e cerca... No, no, è un famiglia cieco. No, non è molto facile per lui, però ci sta dando del suo meglio. Eccolo dove, l'ho fatto, dai. Il pipistrello non lo so. Se vedi che ogni tanto sbatte. In teoria si orienta con l'ho fatto, il pipistrello. Non usa l'ecolocazione. Sì, ho capito, ma non per cercare cose, se no è... Che città sta? Infinita. Questa è una cosa che non so, la portata dell'olfatto dei pipistrelli. Ci sono dei biologi in ascolto. Sarà, ci guardo. Guarda, va bene. Nel frattempo ti fa accomodare nel confessionale. Okay, vabbè, mi tolgo le armi. Ah, sì. C'è anche abbastanza spazio, però sì, per stare più comodo ci sta. No, mi tolgo l'entrata. Non so, sala. Sì, nella. Si dice nel salone. Ti togli le armi. Cosa devi togli le armi? Dove tu le avevi conficcate da qualche parte? No, ne avevo addosso. Tolgo il cinturone con le spade e lo deposito lì. Cos'è questa roba che sgorga? Mi tolgo il cinturone con le armi. Depongo le armi. No, me ne tolgo. Come in tutti i telefilm che si rispettino, c'è la paratia, quella tutta intarsiata, che vi separa. Cosa? Credete di parlare di descrizione, di iniziare descrizione? No, è solo per darvi un'idea. E lui si siede dall'altra parte, in modo da garantire, diciamo, il tuo... anonimato. Ma è solo ovviamente una cosa cerimoniosa. Trovo questa cosa abbastanza inutile. A volte. Come molte cose del... va bene. E questo coltello. E dice: dimmi, fratello. Infatti di armene un po'. Qual è il tuo peccato? Ah, sconfessa Giulia. Io non ho peccato. E allora perché? Ma non per confessare i peccati, per trovare delle risposte. A quale domanda? Che peccato ho fatto? Ad esempio, a cosa è successo oltre i 5 anni che mi ricordo nella mia vita. E raccontami, cosa ti è successo 5 anni fa? Non lo so, i miei ricordi arrivano fino a quando mi sono svegliato in questo villaggio, deserto, tracce di sangue, comunque uno scontro, e c'ero solo io e una testa di una bambola, Isabel, che purtroppo ho dovuto dare via. Mi dispiace, dovevi tenerci molto. Isabel. Ogni tanto ci parlavo. Mi dava dei consigli. Illuminava la mia strada. Non capisco. Il tuo passato è offuscato e tu vorresti delle risposte. Devi sapere che io potrei anche aiutarti. Insomma, se non almeno a darti un'idea più chiara, un qualche indizio. Purtroppo in questo posto la comunicazione con il sommo è difficile, ma se non altro a qualche domanda semplice, a qualche richiesta non troppo complicata, a volte riesco a ricevere delle risposte nella forma di sì o di no. Sì, potrebbe essere utile. E invece adesso una cosa più pratica per quello che potrebbe servirci. Mm-hmm. Lei sa dov'è il Tempio d'Ombra? Avevo letto di questo posto negli annali del monastero. So che sta verso sud, sui monti, ma non ci sono mai stato. Non lascio molto di frequente questo posto, anche perché devo tenere, prendermi cura dei miei, delle mie creature. Come mai ti interessa questo posto, figliolo? Perché è l'origine della maledizione. Interessante. Cosa pensi di trovarci? Questo... boh. Qualcosa per romperla o il potere di crearne un'altra? Questa cosa sarebbe alquanto sconveniente, o perlomeno quest'ultima parte, in quanto il mio obiettivo qui è, ovvero quello di tutti noi, è di liberare questa terra, non di sostituire una maledizione ad un'altra. Ma il cambiamento è sempre positivo. È un'affermazione molto ottimistica. Sono contento il tuo animo sia ancora saldo. Alla fine, anche se il cambiamento si dimostrasse inizialmente negativo, porrasse distruzione, la distruzione è necessaria per una nuova nascita. È un punto di vista interessante. Mi piacerebbe dibattere a lungo con voi, ma purtroppo il tempo stringe e la mia bellissima creazione non ha ancora un abito degno con cui essere presentata al suo futuro sposo. Non c'è vino, ricorda che non c'è vino. Non c'è vino, ma lui ce l'ha il vino in realtà, sono gli altri che sono secchi. Ma io credo che la risposta, caro Atanas, tu la debba cercare dentro te stesso prima di tutto. La risposta dentro di te ed è sbagliata. No, devono morire tutti. Dimmi, se non ti ricordi nulla di ciò che è stato prima di 5 anni fa, che ti ha insegnato la lingua dei cieli? Nessuno. Sì, non era per questo che l'ho scelto. Sapevo parlare, comunicare nella lingua corrente, nella in celestiale e l'altra lingua che so, in etico. E mentre dico celestiale, dico in celestiale e il figlio di venire. Quindi ciao, in etico. Sto parlando. Vabbè, lui il celestiale lo capisce, l'elfico non lo so, però. Boh. Io così. Io so anche abissale, però. Beh, diciamo che la seconda che hai detto è molto meno comune rispetto alle altre due. Sicuramente. Devo dire, ti confesso che ha attirato anche la mia attenzione. Non se ne sento molto spesso parlare in questi tempi. Lo so, finora. Io sono infernale. Sì. Finora tutte le persone con cui ho provato a dialogare in questa lingua non mi hanno letto il libro. Rispondere. Ormai è dimenticata da molte persone che abitano in queste terre. E, io sento che c'è qualcosa che puoi provare a risvegliare dentro di te per riuscire a togliere questo torpore dai tuoi ricordi. Vorrei poterti aiutare di più, per cui tu puoi riuscire a concentrarti e a pormi tre domande, allora proverò a rigirarle al Signore del Mattino, sperando che mi dia una risposta. Ok, va bene. Quando ci sarà più tempo, sicuramente. Bene. E adesso andatevi a prenderla. Ok. Sì, non è un cazzo di sarto per commissionare questa cazzo di anni. Dice che se l'intelligenza è 5 e arriva a 6, ma non dice che se l'intelligenza è 2. Come fai a essere intelligenza? Chi è che ha intelligenza 5 di questi animali? Scusa. Non diventa 5 quello che, di cui evochi. Ok, mentre sei lì che discuti con ti confessi con l'abate, dovrei guardarci se l'incantesimo funziona così, ma suppongo che Patk possa percepire che le sue creature sono state attaccate. E suppongo ve lo comunico. Non è che sono morte, sì, altri animali sacrificati, grande. Morte gli animali! E io dico allora, Race, riesci a controllare? O a far controllare? Vado a vedere se è successo. No, non hai mandato tua famiglia in giro. Allora ammettiamo che il mio famiglio sia un pipistrello piccolo. Non ci vede la sega. Quindi non è un animale, non è un segugio. Non è un animale. Vabbè, andiamo noi. Cioè, se fosse Pteropus vedrebbe e avrebbe un olfatto molto sviluppato. Però è poco probabile. Ma andiamo dove Patka ha perso il contatto con gli animali. Beh, scusa, il nostro amico non presente, Nano, potrebbe seguire le tracce. Il barbaro? Ma non c'è. Oh no! Voi, potreste vabbè seguirle anche voi. Non è lui che... è classico che quando è utile non c'è. Oh no! Non so se ci ricordiamo la lunga campagna di Star Wars in cui lui c'era sempre quando era inutile. Oh, tutte no le volte che sarebbe stato utile non c'era. Classico. E... veniva solo nelle sessioni in cui c'era da combattere. Comunque, il cazzo di droide. D'altronde c'è solo una strada qua che può essere percorsa e va o quella che va dalla città all'abbazia o viceversa, quindi non è che c'è molta scelta. Andiamo giù. Andate giù. Arrivate. Scusi, andiamo a cercare. Torneremo più tardi. Mi raccomando, l'abito. Ormai la maglietta. Ormai la visita del conte è alle porte, non voglio farmi trovare. L'abito per un attimo stavo per togliere l'armatura, mi dico no, che cazzo faccio? Deve essere tutto perfetto, così finalmente riusciremo a spezzare la maledizione. Oh, sono molto contento. Sì, bravo. Non andrà come tu pensi. È un grande bar. Vabbè, mentre comunque andiamo giù per la strada, dico a Race che La cacciatrice dobbiamo occuparcene probabilmente. Vabbè, ma non credo sia davvero pericoloso. Beh, se vuole rimanere qua e far attentare alla vita di strada quando arriverà. Beh, male che vada la mano. Ehi! Cioè, nel senso, il mio padrone! Vabbè, abbiamo comunque fatto un giuramento. Padrone! Parlare con Irina, cioè se nel caso la cacciatrice ammazzasse, scusa, nel caso la cacciatrice ammazzasse Strad, noi saremmo liberi. Nel caso Strad ammazzasse la cacciatrice, vabbè, ok, sì, capisco la tua visione, non sono d'accordo, ma va bene. Padrone, sono diventato cinico. Arrivate e poi abbiamo lasciato comunque Sheva a supervisionare, come non so come si chiama. Garrosh. Garrosh a supervisionare la cacciatrice, no? Sì. O viene con noi? No, gli zombie. I zombie li lasciamo indietro. Cioè. Quindi Garrosh e. Garrosh, Patk e Baern. Baern stanno. Baern è rimasto dalle mogli di Strad. Casa Barna ha anche dato il super amuleto distruggi vampiri. Sì, certo, però è con le mogli di Strad. Me lo riprendo. È mio. Ok. Tornate giù in città. Possiamo mandare un messaggio a Strad. Per dirvi possiamo cosa? Mandare che c'è un discesso, c'è una cacciatrice che vuole uccidere. Ma che infame. Io bro, con che cosa gliel'ho mandato? No vabbè, adesso andiamo giù, poi chiederò all'abate se ha modo di comunicare. No, posso legare un messaggio al mio pipistrello e dirgli vai dal contestato. Sì, arriverà. Ho capito, c'è già stato. Sì, si sa orientare, non è un coglione. Vabbè, adesso vediamo se magari l'abate ha un modo più veloce, tipo un incantesimo o un coso. Tornate giù nella città. Alla fine anche per l'abate è un problema se questa qui c'è da uccidere Strad. Una delle prime case che incontrate notate un certo trambusto. C'è un po' di via vai e soprattutto questa signora con abiti bianchi e sporchi di vari liquami che esce da questa casa, stende fuori dei panni sporchi, ne prende di puliti e rientra. E sentite i versi di una donna che insomma, come se si stesse sforzando di fare qualcosa e vedete gente con degli sguardi in apprensione, diciamo. Cosa succede, buon uomini? Mary sta dando alla luce il suo primogenito. Che tragedia. Sembra. Ha visto una visita da sposa. No, ha fatto un rito civile. E sembra che insomma sia abbastanza complicata la cosa, però confidiamo nell'abilità della nutrice perché tutto vada bene. Dimira, si chiama la neomamma e Cretiana Dolvov, la nutrice. Vabbè, non mi fiderei molto di Cretina, però. Questo mi serve un guaritore, c'è nell'abbazia. Sì, in caso. È super disponibile. Passivo. Ah, ce ne sono ben due, c'è anche Bayern. No, passivo. Va bene. Non voglio questa responsabilità. Va bene, no, dopo tirate dritto. Sì, dopo aver detto condoglianze. Aspetta, visto dei. È sempre una tragedia quando una nuova vita. Per caso ho visto una scimmia su un qualcosa. Ti guarda un po' perplesso. Come scusi? Ok, sarebbe stato un segno degli dei di benevolenza, ma a quanto pare. Quando parli dei. Gli dei sono abbandonato da molto tempo. Vabbè, andiamo avanti. Più avanti ci sono tutte le varie casupole, in fondo una più grande, vicino al, all'ingresso barra uscita delle mura. Nel frattempo penso, nasce 3 giorni prima della visita di Strand. Conte Strad, Conte Strad, Conte Strad, Conte Strad. Sono le casupole? E in fondo ce n'è una più grande delle altre, che potete intuire essere quella del Borgomastro. E in mezzo alla strada vedete. Ma è una casupola? No, casupola più grande. Ok. Una casonupola. E una guardo scuota la testa. Non ci sono più i borgomastri che c'erano a Ballachi. Sono molto più modesti qua. No, infatti, sono morti. Morti. Neanche a Ballachi c'è più il borgomastro che c'era a Ballachi. Sono morti. No, adesso no. Prima erano vivi, ma ora e probabilmente anche la sua casa non si regge più tanto in piedi però. E la moglie dove? Però era più grande, era più grande. Sì, era una bella villa quella. E il figlio non c'è. Dato che cercano di farsi tutto un pochino tra, tra di loro. Ma non mi ricordo, il figlio alla fine l'avevamo ucciso, cioè l'avevate ucciso? No, non l'abbiamo trovato. No, si è suicidato. Sì, probabilmente secondo noi si è suicidato facendo un incantesimo di teletrasporto sbagliato. No, è vero. Abbiamo trovato solo un pezzo del figlio. Abbiamo trovato gli appunti sbagliati dell'incantamento del trasporto. E, di fronte alla casa del borgomastro vedete questo giovane ragazzo che con un pugnale sta inferendo sulla carcassa di un lupo. Ok. Non dovrebbe scomparire. Sì, è vero, dopo un po' scompare. E lui è molto triste di questo. Ok, quindi non stupito, triste. No! No! No, giovane, chi sei tu? Cerchi rogna? Hai fatto scomparire il mio lupo. Tu cerchi rogna? Io? Dipende. Chi sei? Dipende. Veniamo dall'abbazia. Siamo dall'abbazia. Sì, no, presente quella cosa che c'è più su? Sì. Volevamo chiederti, hai per caso visto un vecchio e una donna che passavano da questa parte? In continuazione. Cioè, guardi intorno. Vecchio solitamente in forma, con un'armatura. Armati. Sì, mi sembra di averle visto uno con una faccia un po'... Orripilante. Sì. Un po' marcia, diciamo. Esatto. Sono un po' più vecchio, non è che sono. Boh, sì, li ho visti passare. Hanno detto qualcosa con mio padre, non li ho ascoltati. E se ne sono andati. Ah, è tuo padre in casa? Boh, non lo so, non me ne frega molto. Ma c'era qualcun altro? Oltre alla donna e l'uomo? Sì, qualcuno, qualche guardia. Il vostro. Quell'elfetto che è comparso. Kevin! L'altro. Ecco dove è finito. Voglio fare una cosa se dopo c'è il padre dentro adesso. Vabbè. Non so dove siamo andati e francamente non me ne importa. Buona giornata! Ciao. Chi se ne va a trattarellando? Uccidere il figlio del borgomastro. Che cazzo sei, Aria? No, perché Aria la gente ha fatto qualcosa effettivamente, io cioè a caso. Perché non gli fanno niente. Mi hai guardato male. Esatto. Posso andare io a provare a parlare col borgomastro e se non parla vai tu e lo picchi. Vabbè, andiamo assieme, prima provi tu, poi provo io. Poi il certo buono, poi il certo più buono. Strano. Lo trasformati nell'abate. No, voglio provare a infinocchiarlo. Non puoi, so se sei Irina. Puoi prendere le sembianze di una persona specifica. This guy is gigantesimo. Non rispondere alla mia domanda. Non so leggere this guy is set. Sì. Sto cercando. This guy self. Posso fare quello che voglio. Non c'è scritto che posso, che non posso sembrare una persona. Posso anche avere gli stessi vestiti che avevo quando l'ho visto l'ultima volta. Ok, quindi diventi Rina, eh? No, non diventi Rina, divento Beth, perché è più probabile che sia un'armatura. Rina non so che cazzo sia vestita. Anche Rina però è l'armatura. No, è un'armatura. Sì, anche lei è l'armatura. Allora, non lo so. Perché non può diventare... Sì, diventi Rina. Ah, ok. E busso alla porta, busso super... super trafelata la porta del Borgo Master. E io mi metto lì un attimo in disparte, tipo dall'altro lato della strada. Ok, fai il palo. Va bene. Senti una voce da dentro che urla: arrivo, arrivo. La porta si apre e c'è una delle guardie che era lì a fare la guardia, appunto. E come apre, appunto, comincia a parlare, diciamo, in modo scocciato: chi è che volete? E poi si ferma e vede le sembianze della ragazza e rimane alquanto interdetto e comincia. Non devo parlare assolutamente col borgomastro. Cosa è successo? È una questione di massima urgenza, devo assolutamente parlare col borgomatta. Va bene, tirami un deception. Ho vantaggio perché io sono un attore. Bravo. 14 22 subito. Comincia a correre dentro e senti che sale in fretta le scale e senti un vociare di più persone e poi una serie di passi che tornano al piano di sotto e dietro di lui appunto c'è il borgomastro che è tutto diciamo trafelato, arriva alla porta e ti vede e dice: e tu che cosa ci fai qui? Oh mio Dio, eravamo appena usciti e ci hanno aggrediti lungo la strada e abbiamo bisogno di una mano. Oh no. E per favore, mi può accompagnare con i suoi soldati lungo la strada? Abbiamo assolutamente bisogno di una mano. Presto, suona l'allarme, guardie! Allora, alla chiamata arrivano, mi sembra, forse 7 gradi. Io lì dall'altra parte della strada inizio a essere perplesso. Non mi aspettavo. Allora, ci sono 4 guardie e 2 arcieri che arrivano lì su. Ci servono dei cavalli per raggiungerlo il prima possibile. No, oddio, non ne abbiamo molti, prenderemo quelli che abbiamo a disposizione. Potreste prestarci quelli dei vostri amici, faremo prima. Quali amici? Quelli con cui siete... Ah no, è vero. No, lui sa che loro sono stronzi. Non mi ricordavo che voi eravate arrivati con la carrozza. Noi non abbiamo la carrozza. Cioè, i cavalli. Scusami, l'altro giorno non gli ha fatto tutta la storiella. Sono stronzi, non bisogna fidarci. Ma tu sei Rina adesso. Qualche decina di minuti fa, probabilmente. No, è quello che mi sembra improbabile che lui dica: ehi, prendete i cavalli. No, è che credevo fosse arrivato tutto a cavallo, invece no, vi ha dato il passaggio alla carrozza e Esatto. siete poi arrivati a piedi. Ok, arrivano, manda le quattro guardie a prendere i cavalli alla stalla quindi ci sale sopra, in una ci sale sopra lui, in un altro quello che vi sembra il capitano delle guardie, un altro lo dà a te. No, io preferirei aspettare qui. Ah, ok. No, devi venire, non sappiamo dove andare. Lungo la strada dove stiamo andando, ho troppa paura, la prego. Deception, per favore. Io voglio solo sapere in che direzione è andato, Dio svedese. 16-24. Ok. No, scusa, 16-22. Povera fanciulla, presto chiamate. Chiamate. Il ragazzo si chiama. Proprio in fondo me la devi mettere. Qua. La baronessa, non mi dai il nome. Vabbè, la baronessa si prenderà cura di te. Andiamo, ia! E cavalli, vedi che esce dal portone e va verso ovest. Se nessuno, appena nessuno mi sta guardando, cioè qualcuno mi stanno guardando male, eccetera, cioè poi faccio tipo un diversivo se sono una persona che mi guarda, faccio, oh mio Dio, no! Mi sento morire! E cerco di scappare. Attirato dal rumore è tornato il ragazzetto di prima, che ti guarda e dice: ciao. C'è qualcun altro oltre al ragazzino? Beh, nelle casette di fianco c'è qualcuno che spacca la legna, qualcuno che dà da Ok, ma non ci mangiare. sono guardie o cose del genere. Allora, ne vedi qualcuna sulle mura, chiaramente quelle più vicine sono appena uscite perché hai dato l'allarme. Diciamo che nessuno ti sta, come si dice, sorvegliando, ma non sei neanche da solo. Ma tu non dovevi essere andata via col tuo amico. Sì, purtroppo il mio amico ha avuto un incidente, anzi, saresti così gentile da chiamare anche quell'altro mio amico fuori? Quello che è qua fuori dalla casa. Indichi Vedi che sei Athanas. io il Giulio. Oh certo, adesso te lo chiamerò, ma prima dimmi, che cosa fai? Hai un posto dove stare? Hai fame? No, in Vuoi bere questo qualcosa? momento sono da sola, ma mi hanno detto che la baronessa si prenderà cura di me. Oh, la Sono baronessa, io certo, la baronessa. mia madre, oh, ma a volte è Anzi, me un po'. l'andresti a chiamare? Ti ci posso portare se vuoi, anzi sei mia ospite, vieni, ti offro da bere. E ti fa... Stupro. E ti fa, cioè, insomma, ti apre la porta di casa e gentilmente sì. Tu Ma quindi sono lì sulla... sei dall'altra parte della strada che vedi questa scena. E ridi, immagino, perché... Certo, un coglione. Arrivo subito, devo solo dire al mio amico che rimango qua. Il tuo amico, ma non eravate usciti insieme col tuo amico? Quanti amici hai? Ti facevo un tipo di diverso. Vabbè, io dopo un po' Capisci, che sono parlano mi solo avvicino. amici però. Ehi ragazzo, come va? Di nuovo? Ah, di nuovo tu. Bene, grazie. Ho trovato una nuova amicizia. E stavamo Stai cercando di... attento alle nuove amicizie, non sai mai. Oh. Ecco, dicevo, non dovremmo avvertire l'abate di tutto questo e faccio tipo così Wink, wink. L'abate dice il giovane, ma quel tizio non si vede mai a Giulia. Ma tranne... se i nostri amici sono Abbiamo rimasti toccato sto feriti, bambino, no? se i nostri amici sono rimasti feriti, l'abate potrà guarirli. Boh, quello lì è meglio non averci a che fare. No. si fa sempre i fatti suoi chi e non c'è la batte e non c'è mai quando hai bisogno. Tu mi sai dire dove trovare un arco? Dicevo, cioè, non c'è tempo da perdere. Beh, tu intanto puoi svicolare mentre io gli chiedo dove posso trovare un arco. Boh, c'è il falegname che ne potrebbe fare qualcuno ogni tanto, ma è più impegnato. Ma sono dei buoni archi, cioè tipo le vostre guardie hanno degli archi, sono decenti. Cioè, io intanto entro. Non mi intendo molto di tiro con l'arco, francamente, però se vuole andare a controllare. Io intanto entro allora, grazie mille. Entri nella casa del borgomastro? Eh sì, a sto punto. Devi svicolare. Entrare, trovo una finestra e uscire. E lui caga la mossa e dice ad Athanas: sì, vai alla casa del vecchio Giorgio, sicuramente ti farà vedere dei bellissimi archi. E entra dentro con fare molto spavaldo e va per prendere due bicchieri e una boccia di grappa. E appena lui si volta io mi dilego. Ok, mi dilego, torno normale. Fammi uno stealth. Dai, per questa abile mossa. Bellissimo, in un sec mi deve. Questo è un 11 più 8, 19. Merda, succhiamelo. Si china a prendere. Adesso lo fa. No, leccamela. Si china a prendere dei calici e una bottiglia. Si gira e cioè l'erba mobile che il vento che soffia. Si chiude la porta e tu vedi di fianco dalla finestra. Esatto, di fianco dalla finestra con qualcosa esce di sotto e immagino che cominci a correre via, non so. Sì, gli faccio anche cenno, dai. Via. Va bene. Allora il piano era semplice, ma il master me l'ha fatta sudare. E mi dice il master me l'ha fatta sudare. Sì, ma abbiamo mandato delle guardie armate, cioè adesso non so, cioè è un'utilissima mossa se vogliamo conquistare la città. Ho una domanda, scusa. No, ma lui ha visto che loro andavano fuori dalla città, ma come fa a aver visto la direzione? Ah, no, ok, chiaro. Cioè dovrebbe essere sulle mura per vederla. Basta seguirla, andare in quella direzione. Allora, per vederla in lontananza, sì, è vero. Può avere ragionevole dubbio che abbiano cambiato strada qualche centinaio di metri dopo che sono usciti, perché ovviamente escono dalle porte, meno che tu non stai lì a vedere dove effettivamente vanno, non hai la sicurezza di dove stanno andando. Soprattutto no, dopo. Però la mia idea è che seguire 200 cavalli non è difficilissimo. No, sì, quello sicuramente di tracce ne lasciano per terra, questo non c'è dubbio. Infatti per quello, soprattutto cioè, non è tipo si fa notare questi qua li seguiamo per forza, cioè, e soprattutto con tutto quello che ha piovuto il terreno è fangoso e quindi le tracce si seguono bene per cui un minimo di accortezza che se sta tornando indietro magari ci vediamo ok, detto ciò That's sad, detto ciò e detto that's sad, sì. Google che mi ascolta, che non è per niente creepy. E, bene, che cosa quindi siete nella città che quindi vi state nascondendo dal giovinotto che è lì che si guarda intorno, che non capisce dove è andata la gnocca che aveva appena trovato. Beh, io ho la direzione. Andiamo verso l'uscita e seguiamo le tracce dei cavalli. Ah, subito, ok. Vabbè, sti cazzi, l'importante è sapere dove stanno andando, non li perdiamo. Sì, ma andiamo in due, così a piedi, nella wildness, fuori dalla città così. Andiamo a piedi fino adesso. No, fino adesso. Noi siamo arrivati lì in carrozza, abbiamo fatto 100 metri a piedi. Ma prima abbiamo fatto tutto a piedi. Ok, sì, è vero. Però se loro sono a cavallo ci metteranno molto di meno. Ho capito, ma tanto la direzione è quella, quindi prima o poi arriviamo. Vabbè. Garrosh. Quali amici? Bene, quindi vi incamminate e seguite i cavalli. Guardi, strano. Sì, scusate. Possiamo prendere i cavalli di Patka e Garrosh? Ah no, aspetta. Patka non l'aveva, ma Garrosh sì. Comunque, il vantaggio di seguire. Però forse quello di Garrosh è morto. Credo che ci sia. Da qualche parte. Il cavallo di chi era morto e era salito sopra uno degli animali evocati da... Del fratello di Rina. Sì. No, parte il fratello di Rina. E anche Rina che ha cambiato cavallo. Vabbè, chi sempre. No, non so, il vantaggio di andare a piedi è che quando loro tornano indietro, perché sarà rotto il cazzo, possiamo spostarci dal sentiero e passa. Vabbè. Andiamo. Vabbè. Allora, noi proseguiamo quando siamo all'altezza del boss. Però ti dico, per arriva questo magnifico alce. Ti raggiungo subito. Mezzo scheletrico. E vado un attimo all'abbazia e torno. Mezzo, no? Vabbè, perfetta cavalcatura. Esatto. Vabbè, ma se vogliamo fare non camuffa. Vabbè, uguale, scegli tu. Intanto vado a pisciare. Ciao. Ok. Io vado un attimo all'abbazia. Chiedo all'abate se ha modo di comunicare con Strad. Nel frattempo lui cosa fa? Lui sta per incamminarsi. Io vado e torno, cioè non è che faccio una cosa veloce. Gli dico di aspettare, sì. Se no ci metterò un quarto d'ora. Beh, è un po' lunghetta la strada per salire. Mezz'ora. Sì. Cazzo. Un po', perché è un po' un dislivello di... Beh, prendo il cavallo di Garrosh. Ok, così in effetti puoi fare un po' prima. Arrivi, torni su dall'abbazia e trovi di nuovo l'abate. Ti dice, già di ritorno, hai già trovato il mio abito. No, ma stiamo per andare a prenderlo. Ottime notizie. Però c'è tutto. Possiamo parlare in privato un attimo? Certo, vieni con me. E ti porta nella... nel salone. C'è solo lui nel salone. Lei ha presente, c'è la musica che suona. Quindi lei ha modo di contattare Strad? Non saprei, di solito è lui che mi fa visita, non ho mai provato a scrivergli o a mandargli. Sarebbe il caso di cercare di contattarlo. Per dirgli che cosa? Che la sua visita qui potrebbe essere rovinata facendo tra tre giorni. Oh, che notizia terribile. Rovinata da che cosa? Da me. Lei ha presente la signorina Smeralda. Oh, la mia cara ospite, ma certo. Esattamente. È una cacciatrice di vampiri e vuole uccidere o provare a uccidere Strad tra tre giorni. Ma questo che gli ha detto coso? Sceo? Sì. Questo effettivamente potrebbe rovinare la sorpresa. Quindi veda lei. Però sarebbe anche un'altra sorpresa. Andrò a parlarle. Non credo che sia l'idea migliore. Non credo che sia meglio leggi avvisare dell'abate nell'abbazia. Cioè, non voglio sindacare ovviamente il suo giudizio. Lei sembra più come sempre, il fratello sei molto saggio. E, io confido nella buona riuscita di ciò, e per farlo credo che non bisogna in nessun modo mettere delle ansie o delle preoccupazioni nel già martoriato cuore del povero conte. E cercherò di sistemare da solo la cosa in modo che lui non ha dove preoccuparsi di nulla quando arriverà e sarà tutto perfetto. Ora mi raccomando, per completare se tutto. Prima prendi i cavalli e mi aggiungi mentre cammino. Sì, ma adesso ti raggiungo, finisco di parlare. Voi preoccupatevi solo dell'abito, il resto ci penserò io. Grazie, fratello. Che la luce del Signore del mattino sia come vuole, abate. E mentre però mi parte una frase in celestiale. Del sindrome di Tourette. Esatto. No, tipo mi dice uno si ricordi e dico alleluia, alleluia. Te, quando uscì un cavallo rosso fuoco e colui che lo cavalcava fu dato potere di togliere la pace dalla terra perché si sgozzassero a vicenda, gli fu consegnata una grande spada. Figo, da dove è vero? Apocalisse di Giovanni, il secondo cavaliere. Ah, La sua conoscenza delle sacre scritture mi incuriosisce sempre di più. Un peccato che lei debba andare. Ci rincontreremo. Lo spero tanto. Vabbè, poi raggiungo. E se ricordi che se vuole provare a chiedere all'alto delle domande, io sono disponibile. Quando tornerò sul. E lo vedi che comincia ad andare agli alloggi per cercare Smeralda. Torno. Se vuoi chiedere qualcosa agli altri tuoi compagni che sono. Ehi, sono degli zombie. Va bene, torno. Vabbè, a Bayern dirò la cosa. Ah, beh, gli si può dire in realtà di trovare se vogliono due cavalli e raggiungerci in quella direzione. Sì. Quanto possono. E diciamo cosa stiamo facendo, vedete voi. Va bene. Assicuratevi che però Smeralda non sia un problema. Prima. D'accordo. Bene, quindi torni indietro e quindi prendi un altro cavallo e raggiungi. No, solo uno. Anche un altro non so dove prenderlo. Mi raggiunge e poi andiamo a piedi. Lo raggiungo con un cavallo, ci portiamo un cavallo al massimo a mano, che può sempre esserci utile, che ne so, per dare un impasto ai lupi la notte. Ok, va bene. Cosa? E vi mettete a seguire le tracce degli altri caballeros. Vardistran, finalmente. Oh, adesso non prendo una rivista, mi metto a leggere. Vuoi prendere una pipa di quelle che fa le bolle? Ti chiamerò Adesov. Ade? Adesov, in onore di Ade. Posso dovrebbe chiamarlo Adenov, in realtà, perché era Adeni. Adeni. Anche se lui era Ade. Perché sei intelligente. E ti auguro di avere la sua stessa intelligenza, anzi, meglio di no. Adenov. I tuoi compagni di viaggio si, insomma... Insospettiti. No, meravigliano di questo tuo mega potere. Presto, non c'è tempo da perdere ora. Esatto, perché ne hai perso già abbastanza per fare sto giochino. Quanto ci hai messo di vocale? 10. E cominciate a cavalcare alla volta della torre. The Tower. Che però ci vuole poco in realtà, qualche ora. Ci vuole appena. Dov'è? Qua. 2, 3. In 4 ore ci siete. È esattamente sulla strada per Vallachi o un po'? No, le strade per Vallachi sono due. Quella che avete fatto che passa nelle foreste e che passa di fianco a Toro, oppure quella che fa il giro, diciamo, più battuto e che passa più a sud. E loro non tra l'altro gli altri non sanno dove andremo. Ah, gli altri. Perché io non gli ho detto che andiamo alla torre, ovviamente. Tu hai detto che andate a Vallachi. Sì. Quindi dipende se conoscono questa scorciatoia oppure la fanno a strada lunga. E per andarci passate in R. R è il rovina. R. Com'è che si chiama Garzonovic? Chi? Il bambino. Garzonovic. No, è Pietro. Pietrovic. Pietro. Te dici Pietro? È vero. Che l'ultimo arrivato. Ma che l'ultimo ad andarsene. In persona. Ehi. Allora, vediamo un po' cosa succede in R. Ok. River Crossroad. Ok, piccolo piede. Ok, tira un di 20. 6. Ora sei il di 6, il di 12? No, perché con 6 non succede un cazzo. La rovina del male. È tutto tranquillo, è arrivata la torre. La torre. Allora. Quanto ci mettono loro in cavallo? Giusto, è vero, loro sono a cavallo. Quindi invece di cavallo di alce. 4 ore ce ne mettono 2. Vabbè, non so cosa. È un'allegra scampagnata. Sì, no, vabbè, che pensavo, seguiremo tracce per giorni, invece no. Però effettivamente bisogna vedere se i cavalli vanno nella stessa strada che hanno fatto loro. Beh, lui sapeva dove andava. Sì, ma la strada si biforca a un certo perché punto. Io non ho detto che andavo alla torre, io ho detto che andavo all'acchi. Ah, ok. Dipende se fanno la strada, la scorciatoia nella... Ah, si sì, scuro. Anche perché se vanno a Vallacchi probabilmente muoiono tutti. No, dove sono? Vabbè, è un'altra città. Un'altra città per strada. Io gli avevo detto a strada che siamo degli ottimi. L'aveva detto lui prima di voi. Sì, ma io gli avevo ripetuto che siamo delle ottime risorse. Lei non sa quanto ottime. Ancora... Esatto. Ancora non ha visto nulla, signor Strano. Tutte le guardie hanno uscito, c'è abbastanza male, le poche erano rimaste. La moglie del borgomastro. Allora. Il figlio che, vabbè, noi non lo sappiamo, ma è stato resuscitato. La torre da lontano appare così. C'è il carretto che avevate visto anche all'andata, che non è quello del bardo, è diverso, è viola questo. La torre è abbastanza in rovina e sul bordo c'è un'impalcatura che è stata costruita su un suo lato e arriva fino a un buco posto al terzo piano. Ma tipo una scala? Inizia con una scala e poi c'è un'impalcatura. Qua di lato si vede meglio. La torre metterla su per ristrutturarla non è chiaro. Di lavori di ristrutturazione ce ne sono poche. Okay. La diretta è partita. No, è tornata. Sì, magari qualche animale si è schiantato. Nella lampadina. Povero animale. Non ci sono lavori di ristrutturazione, è una impalcatura fatta per raggiungere questo buco che c'è in alto. Arrivate ai piedi della torre passando per questo camminatoio che collega l'isolotto centrale alla terra. Vabbè, ovviamente prima di faccio comunque un perception per vedere se c'è qualcosa, se c'è qualche forma di vita almeno. Ti sembra disabitato. Arrivati là sotto, questo è il carretto che c'è ai piedi della torre, molto sporco, pieno di fango, però le ruote sono in buone condizioni e sotto il fango si vede un po' di vernice di colore viola scuro che mi dà l'idea che sia lì da molto. Da almeno, non sapresti dire quanto tempo è lì, magari c'è della polvere sopra. Però se le ruote sono in buone condizioni probabilmente non è stato usato tanto tempo fa. No, nel senso è che il carretto non è scassato, cioè è ben mantenuto, è un buon carretto. Cioè non è lì da dei mesi, per dire. No, beh, questo non lo riesce a sapere, nel senso non è una roba scassata. Però se è un carretto di legno si stesse un anno. Un anno sì, ok. Beh, molto meno. È il carretto del bardo. No. È diverso. Ok. Dico gli altri di... Sarei molto attenti. Circospettio. È un'ottima indicazione. E noti che questo carretto appunto c'ha questa lanterna di ottone e ci sono delle tende rosse che coprono le finestrelle ai lati e un lucchetto di acciaio che chiude la porta dietro e sopra di questo c'è un cartello su un legnaccio con una scritta sopra: non entrate, keep out, davvero alla larga. Allora, e mentre la torre, aspetta, mi avvicino però. Vabbè, dimmi la torre prima. Torre. Bello. La torre di pietra ha una porta di legno e di ferro. Sulla porta non c'è una maniglia o un pomello, e soltanto questo simbolo tondo e con una serie di linee che connettono 8 figure stilizzate. E sopra l'architrave della porta c'è scolpita la scritta Kazan. Kazan? Shazam. Allora, direi che faccio. Questa è la porta. Su quello faccio un bel religion. E questo è il simbolo sulla porta. Su quello faccio un bel religion. Sembra un libro di Marco, porca puttana. Per quale motivo? Personaggi che fanno storie parallele. 8 su religioni. Dai, però Salla, facciamolo, cioè incoroniamoci da soli, iniziamo a conquistare le città. Se non lo troviamo andiamo a fanculo. Diciamo, Strad, per ora non siamo riusciti a parlare con Irina, ma abbiamo conquistato tutto. Ma tanto ogni città che conquistate arriva a stare. Ah, grazie, l'avete fatto per me. Siete troppo bravi, gentili. Infatti noi lo facciamo, bravi. Stradio, questa la volevo. No, Giulio, sei così gentile, amabile. Prima o poi ci darà, ci ricompenserà di noi. Allora, la religione c'entra poco in questo caso, in quanto Kazan è praticamente un mago. Va bene, Casimir, dimmi tu cos'è questa roba. Ti può venire in mente che Casimir può saperne qualcosa. Casimir, cosa potresti dire? Kazan era un mago che abitava in queste terre, era un arcimago. E l'hai conosciuto? Colui che, no, venne qui, visse ben prima, molti secoli fa, e fu lui che costruì ad esempio il castello. Beh, scusa, ma Casimir è un elfo, ce l'avrà un centinaio d'anni, anche di più. Questo è ancora antecedente, perché... Okay, però non è una domanda così tipo la tratta proprio un coglione. No, è vissuto qualche centinaio di anni fa. E tu quanti anni hai? 500? No, più centinaia. Fuck. Qualche sono diverse centinaia. Milioni. Decine di migliaia. Era un arcimago molto abile nel costruire torri e castelli. Forse poteva fare architettura. Però ha scoperto più tardi. Troppo tardi. Dopo centinaia di anni l'ha scoperto. Per far contenti i genitori si è iscritto alla facoltà di magia e quindi... solo in età adulta scoprì la sua abilità. E, la storia che si racconta di lui è che a un certo punto, per soddisfare la sua sete di conoscenza, divenne un lich. Particolarmente. La sua voglia di rivalsa fu tale da che nutrì l'intenzione di andare al castello di Ravenloft e sconfiggere Strad per reclamare questa terra. E da quello che invece successe, i due forgiarono un'alleanza e Kazan insegnò a Strad i segreti della magia. Perché già era un po' deboluccio Strad. Esatto. <dall'altro>. proprio lui, quando appunto non istruiva Strad a diventare sempre più potente, passava diverso tempo nel tempio d'Ambra, che è il tempio oscuro. Sì, si chiama tempio d'Ambra, non so se avevo già visto, già detto. Quello dove dovremmo andare. Quello dove dovreste andare. Per appunto migliorare la sua padronanza della sua licita. Sì, perché io prima l'ho detto il nome a all'abate. E sì, l'ho scritto tempio d'Ambra. Poi dalla sparizione di Kazan, la torre è questa qui, sembra disabitata, ma ci andrei cauto. Soprattutto farei attenzione. Cosa dici che potremmo trovare all'interno? Ah, sicuramente è sicuramente protetta magica. In qualche modo. D'altra parte, forse quell'apertura è proprio per poter... Potrebbe essere una buona scorciatoia, ma bisogna stare attenti perché quelle impalcature sono marce molto fragili, troppo peso potrebbe farle crollare. Ma... Pietro! Ma vediamo un pochino questa porta. Aspetta un attimo, Casimir, prima di andare alla porta volevo avvicinarmi un attimo al carretto. Fai attenzione, c'è scritto di stare alla larga. Vero. Faccio uno stealth con peso negativo, giusto? Con svantaggio perché è l'armatura. Credo. Puoi spogliarti. No, scherzo. Sì. Oh. Il 2. Ok. Cerchi di fare poco rumore, con poco successo. E cadi a terra. No, vabbè, ti avvicini di soppiatto. E faccio un perception. Ok. 14. Non ci sono suoni provenire, immagino, dall'interno del vagone. Sì, sì, era quello che volevo fare, ascoltare. Non ci sono presenze alcune. Va bene, dico, il vagone sembra vuoto, non so cosa contenga ovviamente. È tutto sbarrato, vero? Non è tutto chiuso e ci sono le tende che coprono le finestre. Da dentro però. Chiaramente. E niente, allora, andiamo a vedere sta porta. La porta, come ti dicevo, non ha maniglie o pomelle. Solo questo tondo con queste figurine e delle linee che le congiungono. Allora, come se fosse una... Che sono il puzzle? Un enigma. Sì, dice... Kevin, che in realtà si chiama Casimir. Kevin, si dice di più. Kevin. Forse qua si vede meglio, che lì non è venuta granché. Anzi, KVN. Sì. Ci deve essere una qualche sequenza per aprire questa porta che non capisco, ma bisogna stare attenti. Il prezzo del fallimento in questi casi può essere scottante. Sembrano posizioni che si debbano seguire. Sì, ma anche ordine. Allora, che cosa c'è di fianco a questo mino qua? Quel tondo? Sì. È un chiodo che tiene fisso questo cerchio alla porta. Cioè la partenza è o dal primo o dal secondo. Mi sa che arriviamo e lui è ancora lì che guarda le cose. Allora. Quindi bisogna capire. Questo è un chiodo. Volevo capire se appunto era qualcos'altro. Tu. Vabbè, o si parte dall'uno o si parte dall'altro. Il problema è che cazzo succede se sbagli uno dei due. Fallo fare a Ken. O a Pietro. Tu, Casimir, non hai nessuna idea sui simboli. Cioè, passano solo posizioni queste. Esatto, penso anch'io. Il simbolo in sé, che penso. Cosa significa? Significa qualcosa? Non ho mai visto un simbolo che abbia un significato nella tua vita. Non ho mai visto un simbolo con un significato cosa? Ma... penso serva ad indicare la sequenza da seguire. E basta, però come capire dove partire? Beh, è simmetrico, quindi... Come fai a leggere? Io non leggo. È uguale? Te? Non credo. Con uno lo apri, con uno lo chiudi. Normalmente una porta... Andrò a chiudere. Una porta si apre e si chiude, giusto? Sì, ma... Si accendono, si spengono... Le luci di Natale. Ma si gira a sinistra per aprirla, però, di solito. Però non... No, sto aspettando Kat. Kat è andato in bagno. Sto leggendo un servizio sui Baiaku. Cos'è? È una professione a Haiti, cioè il tizio che svuota le latrine. Bello. Possibilità di carriera. Che rivista stai leggendo, scusa? National Geographic, ma del mese scorso, perché qua non mi arriva. Pensavo professioni strane e dove trovarle. Professioni strane e dove trovarle. No, beh, sarebbe bello, però... Beh, l'articolo di prima era più divertente, sui ragni volanti. Ah, ok. Ci sta, i ragni volanti ci stanno. No, con Gastrino non sono ancora stato, sono stato d'Argenta però, quindi mi sono avvicinato. Allora, normalmente le porte si aprono girando la serratura, cioè la chiave a sinistra, girando la chiave a sinistra, per cui però qua non c'è una serratura. No, giusto. Chiedo a Casimir, secondo lui rischierei a toccare il simbolo? Probabilmente sì. Temo che se, insomma, almeno se io fossi nei panni di un leggendario costruttore di torri magiche, la prima cosa che in cui metterei delle trappole sarebbe proprio quello. Va io bene. Non lo toccherei, ma provo dovresti a fare la posizione da sinistra. Allora, quella tipo così. Falla. Catta. Questa, eh sì, devo avere le gambe un po' un pochino divaricate ed essere così. Poi dopo... Ma succede qualcosa quando la faccio? No. Allora faccio così. Questo? Eh sì. Ok. Poi devo fare questa qui, tipo. Sì. Poi... Aspetta, tac, tac, tac. Questo non lo vedo bene, ma mi pare che sia così. Sì. Sempre un po' divaricato, poi si va di nuovo così, sì. Poi si va di nuovo così, tipo. Poi di nuovo così, cioè, anzi, che è il contrario di prima, sì. E c'è da speculare, e poi niente, poi c'è l'ultimo così. Un raggio si trafigge il cuore. Vedi il simbolo che si illumina e la porta piano piano si apre. Un grande potere. Complimenti, Bardi. L'apritore di porte. Per fortuna ci è andata bene alla prima. Chissà cosa ci sarebbe successo se avessimo... Proviamo! Cosa? Ok. Allora... E va bene, sbircio dalla porta. Cosa vedo? Allora, il primo piano ha il terreno coperto di detriti caduti dai piani superiori. E al centro c'è un ascensore che è tirato da... Un ascensore? Sì. Tipo un argano, vuoi dire? Sì, un montacarichi. Ok. E che è azionato da questi quattro golem d'argilla che tengono le catene immobili. Come la vedo male. E per il resto ci sono delle casse vecchie che sono appoggiate contro il muro ad est. E, allora, so di essere poco credibile, faccio un perception, però mi sa, per trovare le trappole, non è investigation. Sì. Poi dipende se tu le cerchi con lo sguardo, perception, se cerchi di dedurre con l'intelligenza il ragionamento, investigation. Sono sia stupido che, che cieco. Che cieco. Allora, no, col perception, dai. Vai. 14. Ok. E non ti sembra di notare delle trappole in questo pavimento? Le piastrelle sono tutte, sì, i muri sono i massi che compongono la torre, e non ci sono controlli che non ci siano delle corde tese per farti inciampare o delle mattonelle. Però giustamente strane. Se ci sono saranno trappole magiche, quindi probabilmente. Vabbè. E vabbè, noi alla fine non so quanto vogliamo esplorare, però sì, dai, entriamo. Ok. Casimir ti segue. Esatto, dico. E come mette piede dentro, prende fuoco. No, vede le sue mani e esclama: ah, furbo Kazan. Questa torre è completamente schermata dalla magia. Qui dentro non abbiamo alcun potere. Parlo per te. Sì, potere magico ovviamente. Siete come in un campo di antimagia. Ok. Però se c'è antimagia non possiamo neanche subire la magia. Esatto. Quindi è una buona cosa. A meno che I gorilla di argilla. No, i golem di argilla. I golem di argilla. Allora, le casse, c'è qualcosa? Allora, nelle casse ci sono, ne apri una, dei materiali da costruzione. In realtà mi servirebbe qualcosa di valore, sono a zero. E devo acquistare dei mercenari. Puoi chiedere un prestito a casa, non so quanti soldi. Mentre giri l'intorno, i quattro golem sono immobili. Che insomma, ma la piattaforma è a questo piano? La piattaforma è su. Occhio, ben si ricordi quanto è bilanciata questa avventura. No, ma infatti qua si muore. Ed è proprio per questo. Tra l'altro, scontrarsi con dei golem in un campo antimagia. Quindi nelle cose non c'è niente. Cosa fai? Casimir. Proviamo ad andare su o vogliamo provare a questo punto? Casimir è super incuriosito e insomma vuole ammirare le meraviglie del potere di Kazan. Purtroppo il mio rendezvous con Victario non aveva una data, quindi era più una speranza trovarlo qua. Vediamo comunque se riusciamo a magari trovare qualcosa di utile. Sono d'accordo. Per combattere Strahd. Oppure morire. ok, quindi la piattaforma mi ha detto che è qua. La piattaforma è su. Ah, è su. Bisogna che scenda. Ci vuole un comando. Un comando che solo l'infernale potrà, potrà dire. Ti avvicini a. No, aspetta. Kazam era un mago. E Lich sì, cosa parla? Sì. Non dei non morti, quello che parlavano in vita. Però allora in infernale. A dire. A dire. Stupidi golem. Scendi, tipo, scendi. Ok. E come ti avvicini ai quattro golem. Uccidere! con diciamo fare per intendere che vorresti che abbassassero l'ascensore, si attivano e cominciano piano piano a farlo scendere, polvere cade, senti un sacco di legno scricchiolare, la torre purtroppo ha visto giorni migliori, però grazie anche alla sapiente magia del suo creatore resta ancora in piedi. Ok. Arriva il... Quanto è più in alto il primo piano? Allora. Più o meno. Venti piedi ogni piano. E qui come funziona con le cadute? Sono... Muori. Un di 6 ogni... Ogni 3 metri una volta. Quindi ogni 10 piedi. Sono 20 metri o 20 piedi? 20 piedi. Quindi 20 metri un po'. Quindi un... Alla fine un paio di 6. Esatto. Va bene. Ogni piano. E sono 4 piani. Va bene, so, pensiamo un piano alla volta. E... Va bene. Saliamo sulla piattaforma. Kazan ti dice forse Kazan no. Come cosa iniziamo per K sti qua che palle Kevin Casimir di Kevin ti dice non so no, non vorrei gravare troppo mettere troppo peso sei curioso palla. Però non è abbastanza d'altronde perché la scuola piattaforma di cosa è fatta però insomma, è lì da secoli quindi meglio non gravare troppo anzi alleggerisciti un po' per sicurezza va bene, andrò io seguimi però magari assolutamente lasciami la tua bagagli certo, poi mi ammazzo pure no, anche l'armatura voilà. Vabbè, l'armatura quella non dico di togliertela. Bene, anche le armi, fidati che non me le anche tolgo. Le armi, ok, ma le altre cose che hai addosso. Vabbè, ma quelle le posso lasciare all'ingresso, sì. Quello ti dice. Cioè, a parte magari qualche cosina. Tipo, dell'acqua santa. Va bene. Vai. Ascendum. Primum piano. I golem cominciano a tirare su la... L'ascensore non è un molto confortevole perché traballa parecchio. Dà l'idea che possa crollare o tiene? Per adesso tiene. E sale lentamente, fa 5 piedi ogni round. Ok. Quindi dopo 4 arrivi round. Al secondo piano. Sì. Pieno di polvere e ragnatele e nient'altro. Cioè pavimento di legno che è sfondato praticamente al centro, non solo per insomma per far passare l'ascensore, ma non è a questa altezza che entrava il buco. No, più in alto, terzo più piano alto. Entrava. Allora va bene, scendiamo ancora. Scendiamo ancora, arriviamo al terzo piano. Second floor, third floor. Cioè, forse era meglio far arrivare Kevin. Vabbè. Il tempo e gli elementi hanno massacrato questa camera, lasciando appunto questa breccia nel muro a nord-ovest. Mentre però tu descrivi, io mando giù che Kevin deve venire su. Come fa a venire su? Decendum. Ah, tu sei sceso al secondo piano in modo che lui poi possa arrivare. Sì. Almeno non mi faccio tutto da solo. Allora, ok. Cioè, a meno, dipende, a meno che io non arrivi che... e non vedi tipo tre draghi che mi vogliono uccidere, allora magari mi butto giù. Considera che in questo piano non c'è nulla, quindi dovreste poi rifare di nuovo la, sì, vabbè, passaggio. l'aspetto, dai, sono troppo lontano. Intanto comincio a guardare, vabbè, qua, quindi... perché poi qua arriva il buco, cioè il buco della cosa. Al terzo piano il buco. Adesso tu sei per... No, io arrivo al terzo. Non c'è niente. Sì, sì, no, poi proseguo, arrivo al terzo. Okay, però al terzo, poi dopo mando giù. Invece perché capivo che faceva no. Cioè, avrebbe avuto senso, ma... No, no, secondo me non c'è niente. Già avevo detto che andavo su. Al terzo vedi appunto questa breccia che appunto è raggiunta dall'impalcatura che è fuori. Mm-hmm. Sui muri si è formata tutta una muffa mimosa. Mm-hmm. E il pavimento è completamente marcio. Mm-hmm. E sta cominciando a crollare a pezzi. Quindi un bel posto dove fermarsi. No, però vabbè, sul lato vicino alla pietra, facendo molta attenzione, e mi servirebbe sapere quanto pesi in pound. Mi chiedi un pochino tanto, quanto è un pound? Perché io non ho niente qua in realtà come cosa, ma sarò più o meno su un 1,80, quindi consideriamo con l'armatura sarò quegli 85-90 kg, non lo so, forse sì. Con l'armatura è tutto, anche di più. Non so quant'è l'armatura in realtà, 10 kg? 15 sui 90. Pound. 198. Allora tu fai per mettere un piede fuori. Senti lo scricchiolio e capisco che è meglio di no. E una voce deve provenire dal piano di sopra, dice: non lo farei se fossi in te. Dal piano di sopra, dal quarto piano. Chi è là? Da giù. Ti stavo aspettando. E vedi questo vecchio, ah, cazzo, con gli occhiali, e un vestito con Rictavio, e un po' canuto, il era così vecchio? No, e soprattutto è un umano questo. Ma la voce la riconosco, però nemmeno, perché no, anche quella era, quindi non so che sia in realtà. E ti dice: mi scuso per il mio aspetto, probabilmente tu mi hai conosciuto. Naturai. Piasto. Chainmail. 55 libbre. Mi hai conosciuto come l'allegro bardo mezzelfo Rictavio. 20 kg di armatura. Non sono stato del tutto sincero con te, caro amico. Io sono Rudolf van Richten. Ero questo nome? Sì, il cacciatore di vampiri. No, bomba! Rictavio Rudolf van Richten, non vi era venuto il sospetto? Assolutamente che... no. Okay. Uno, perché non mi ricordavo che era van Richten, okay, e due, no, oggettivamente no. No, bomba, scendo. Arrivi al piano, al quarto piano, che al contrario degli altri è in condizioni di perfetta abitabilità, è anche abbastanza accogliente. Non c'è muffa e perché umidità. Giustamente non è il più alto, quello che crolla per prima. No, però è stato mantenuto a differenza degli altri. Entra della luce da una feritoia. Uh-huh. E vedi sul un lato una c'è un disegno, c'è un'armatura appoggiata Questo è la finestra. E letto, stufa, scrivania e tutta una serie di altri oggetti, insomma, in modo da rendere questo piccolo spazio abbastanza confortevole e abitabile. Antimagia tutta la torre. Sì. Quindi non può, è schermata qua. Sì. Quindi Irina qua ci potrebbe stare volendo. Morire lì dentro di vecchiaia. Bomba. Ah, ho capito, zio, cioè, rispetto a tutti gli altri, cioè, nel senso, adesso capisco che te ci hai trovato mille luoghi buoni, però noi abbiamo trovato uno perfetto, il castello di strada. Vabbè, voi non chiaro, ma per quelli che invece non sono ancora passati al vincere facile, al lato scuro. È un piacere rivederla. Oh, vedo che avete portato degli amici. E guarda giù. Come puoi vederli se c'è la piattaforma? Cosa? Mi ha visti quando. Va bene, dai. Sì, siamo in fuga in un certo senso. Ditemi tutto. E vabbè, aspetta che salgano gli altri due uno alla volta. E Pietro? Dopo. Ah no, Pietro gli dico di stare giù a controllare. Ok. Dopo. Pietro, controlla l'ingresso. Te dici? Dopo un tot di tempo la porta sotto si chiude magicamente dopo un minuto, a meno che non venga tenuta aperta. E quindi sì, lo chiudi fuori. Pietro? No, Pietro sta dentro, ma giù. Al primo piano, ok. E il mulo e i cavalli? Bravo. Mi piace quando sei attento. Potrebbero entrare anche loro. Potrebbero entrare anche loro. No, vabbè, tiene fuori e controlla. Tiene fuori e controlla. Quindi Pietro sta fuori coi cavalli? Eh beh, qualcuno deve badarli. Adesso arriverò io a uscire, dai. Bene, sono molto contento che mi abbiate finalmente raggiunto dal nostro sfortunato incontro a Vallachi. Da quello che ho capito non se la passano molto bene in quella città. Vi ero soggiornato finché le acque erano calme per raccogliere più informazioni possibili, sia riguardo al conte che riguardo a certi abitanti. Sa, sono no, quelli maledetti. Loro e tutta la loro genealogia, vero genia. Che lui era super razzista. Sì, comunque deve... si è rifugiato da un tizio razzista che ha paura di strada e si rifugia in una torre con cosa antimagia. Mi piace. E infatti è vissuto abbastanza per diventare vecchio. Qualcosa vorrà dire. Ma, quando, ma quindi da quanto tempo sei in queste terre? Io ne da ormai un paio di mesi che sono qui a Barovia. Vabbè. Sono entrato giovane. No, ormai i miei migliori anni sono passati e volevo tentare di lasciare questo mondo con un'impresa degna del mio nome. E per cui ho seguito una carovana di quei luridi nomadi, esatto. E ho preso uno di loro che era stato esiliato con l'accusa ovviamente di aver rubato qualcosa dai suoi simili, come se anche gli altri. E diciamo che mi sono fatto indicare la strada e indica una cassa che c'è in un angolo dal quale esce un piacevole odore di lavanda. Ero arrivato a Vallachi nella speranza di raccogliere informazioni su una società segreta. Si chiamano i Guardiani delle Piume. Li ho mai sentiti io? No. E sembra che cerchino di raccogliere, insomma, di creare una rete di spie e, di uomini per tenere almeno sotto controllo quello che succede in questa regione. E hai scoperto qualcosa? Il locandiere non me la racconta giusta, ma ovviamente che locandiere sono Vallachi. L'hai ucciso tu? No, ma Vallachi non è adesso. Ma ora che arrivate voi si sa morto. Non è che fanno un genocidio, se le devono tenere le riserve di li allevano come come bestiame. Adesso non sarà più un locandiere, sarà tipo cibo, sacca di cibo numero 5, che ne so. Ma perché adesso sono dei progenie? No, non lo sappiamo. Stavo alloggiavo alla locanda, insomma, grazie alla sua gentilezza, anche per cercare di scoprire più informazioni sul conto suo. E penso che c'entri qualcosa con questa organizzazione, ma devo ancora capire quali sono i membri e insomma se possono fare al caso nostro, ma devo dire che se sono ancora in piedi hanno fatto un ottimo lavoro per non essere scoperti, e ovviamente è molto difficile cercare di infiltrarsi proprio perché sono molto bravi nel farlo. Ma spero che questa pista mi porti a trovare un insomma dei validi alleati, come spero di averli trovati in voi. Ora dovete sapere che venendo qui ho trovato anche tracce del che sono stato seguito da una mia cara amica. Non ho ancora avuto modo di incontrarla, ma Esmeralda. Esatto, l'avete vista? L'abbiamo incontrata a Kresk, nell'abbazia. Interessante. Temo che sia in pericolo. Tipico di Esmeralda. Temo sia in pericolo perché vuole tendere un'imboscata a Strad, ma non so se ne avrà le forze. Come sempre, avventata e spericolata. Ma forse sapendo che tu sei vivo, potrà magari rinsavire e darci una mano. Sono convinto. Che cosa le hai detto quando vi siete lasciati? Allora, ti racconto un po' quello che abbiamo passato. Sono tutto orecchi. Noi siamo entrati con alcuni miei compagni, ormai ex compagni. Ex compagni. Siamo entrati a Barovia, invitati da una lettera che poi abbiamo scoperto essere scritta di pugno dal conte Strad. Tipico. Come inganno. Da allora abbiamo provato a opporci a Strad e abbiamo incontrato la famiglia Koljonovic. E abbiamo cercato di proteggere lei, Irina, dal conte Strad, perché a quanto pare è molto invaghito di lei. Poi abbiamo scoperto perché. Perché? Perché a quanto pare è l'incarnazione del suo primo amore, una certa Tatiana. Capisco. E quindi questa cosa a quanto pare si ripete nel corso degli anni a Barovia, sempre con esiti nefasti. Per proteggerla abbiamo vagato nel reame o nella contea. La contea. E, sia a Vallachi che a Kresk, dove speravamo di trovare luoghi sicuri, in realtà per motivi diversi non siamo riusciti. A Vallachi diciamo che probabilmente abbiamo commesso, anzi sicuramente abbiamo commesso anche degli errori, perché abbiamo un po' sottostimato quello che era il ruolo del borgomastro locale. Perché forse come avrai notato era un pazzo furioso, ma a quanto pare la sua caduta che abbiamo provocato in realtà ha portato all'ascesa di Strad sventuratamente. Beh, aveva i giorni contati. D'altra parte l'arrivo di Strad ha fatto sì che volesse ghermire Irina, Ma siamo riusciti a ritardare la cosa. Come avete fatto? Come distogliere un lupo affamato dalla sua preda? Diciamo che in quella specifica occasione sono riuscito un po' a, diciamo, quasi ingannarlo. Cioè, più che ingannarlo, insomma, sì, a convincerlo ad aspettare che la portassimo al suo castello. Dopodiché però siamo scappati per Kretzk. A quel punto però il nostro gruppo si è scisso. Perché alcuni dei nostri hanno deciso di tornare a Vallachi per motivi non chiari e ci hanno abbandonato in mezzo alla foresta e ai lupi. E siete sopravvissuti alla foresta di notte? Nonostante questo siamo sopravvissuti ai lupi e io davo... incredibilmente forti o incredibilmente folli? Siamo sicuramente disperati. Sicuramente disperati. E, purtroppo nel farlo è morto il fratello di Rina, che ha dato la vita per salvarla. Mi dispiace. E davo per dispersi ormai anche i miei compagni, perché tornando a Vallachi in una situazione così delicata, temevo che sarebbero stati uccisi dai leccapiedi di Strahd, se non da Strahd stesso, una volta scoperto ciò che avevano fatto. A Kresk ho incontrato l'abate, sperando che fosse un luogo sicuro, quello dell'abbazia, ma mi sono reso conto che se magari inizialmente i suoi propositi erano benevoli o comunque pii, ormai nel corso degli anni deve aver perso la ragione e ora spera di aiutare Strahd a trovare la felicità. La sua ultima trovata è aver costruito una specie di pupazzo umano che rassomigli appunto a Irina e spera di presentarglielo da qui a 3 giorni. Okay. Tra 3 giorni lì ho incontrato anche Smeralda, che lo attende lì, appunto attende Strahd lì per... vuole attaccarlo dove è più lontano dal suo castello. Probabilmente ha imparato bene, però è ancora un avversario al di là delle nostre forze. Fuggite sciocchi. Ad ogni modo l'abate non sono riuscito bene a identificarlo, cioè non è stato ostile con noi, ma mi ha dato l'impressione di essere un chiaro alleato di Strahd, o comunque di essere convinto della bontà di Strahd addirittura, nonostante tutto ciò che si sa di lui. E a quel punto sono sopraggiunti i nostri compagni che ci avevano abbandonato. Cosa che per me è molto sospetta. Di conseguenza, mentre gli altri sono andati a parlamentare con loro, ho deciso di abbandonare l'abbazia insieme a Irina, approfittando anche della distrazione dell'abate. Capisco. Temo che ti possano aver venduto al maligno? Temo che abbiano, siccome non già in precedenza non si erano mostrati, alcuni di loro non si erano mostrati, diciamo, molto dell'idea di proteggere Irina e diciamo presentavano alcune, diciamo, derive di un certo tipo, temo che possano essere scesi a patti con lui, magari no, però non mi fido molto in questo momento, anche perché comunque ci hanno abbandonato a metà del percorso in mezzo al pericolo. E di conseguenza comunque ho approfittato di questo per fuggire dall'abbazia e ricongiungermi con Casimir. A questo punto l'abbiamo abbandonato a metà, abbiamo abbandonato all'inizio. E di conseguenza a questo punto abbiamo parlato con il borgomastro della città, che ha consentito a farci uscire per recuperare questo vestito che a quanto pare serve molto all'abate, un vestito nuziale che si trova a Vallachi e che serve per presentare la nuova figura. Vestito che sicuramente sarebbe un ottimo lasciapassare per tornare in quel di Kretzk. E niente, poi non so se Casimir tu vuoi aggiungere qualcosa su quello che abbiamo scoperto. Sappiamo... ad esempio del tempio, io vuol dire, no, non lo so, quindi non lo so se glielo vuole dire. sappiamo che queste terre sono vessate da diverso tempo, come probabilmente sa anche lei, da una non carestia, una penuria di vino. Vino! E comincio a pensare che debba esserci lo zampino di Strad in questa cosa e meriterebbe di essere investigato. E Varrichten aggiunge: infatti comincio a credere che ci sia un collegamento tra i guardiani delle piume e la carenza di vino? La carenza di vino. Ma nel senso che sono stati loro o sono stati che per intercettati da per danneggiare la loro attività abbiano manomesso la loro principale fonte di reddito, perché appunto la stessa famiglia che tiene la locanda ho scoperto è la stessa che segue la cantina del mago dei vini e nonostante da quello che mi ha raccontato il locandiere ci siano stati degli screzzi in famiglia, non si parlano lui con suo padre, è quello che è appunto il capo famiglia che abita la vineria e comunque fino a un mese fa veniva sempre rifornito lo stesso da lui e da quando non ha più sue notizie mi è sempre sembrato molto preoccupato e queste cose che mi dici potrebbero avere una causa comune. E, ma ora pensiamo una cosa, immediato. Io ho visto che se entra un miglio da me io posso parlare telepaticamente con il l'alcio. Ma lui anche può dire a me o no? No, dovrebbe essere un legame reciproco. Quindi eventualmente io gli posso dire che se c'è qualcosa in avvicinamento di comunicarmelo. Fare un barrito, qual è il no, basta che mi comunichi telepaticamente. Era per dire fammi un fischio. Ma come in famiglia? Sì, in teoria dovrebbero essere in contatto. No, però comunichiamo telepaticamente. Può dare lui delle parla sensazioni. Un linguaggio. No, lui parla un linguaggio a mia scelta. Allora, ha intelligenza 6 e parla un linguaggio a mia scelta. Comprende in realtà forse, non so se parla. Comprende, comprende è diverso da parlare. Vediamo cosa dice Find Steed. Vabbè, adesso ci guardiamo. Se come famiglia tu puoi parlare con lui, puoi condividere quello che vede, sei vicino, ma lui non può parlare con te perché è un animale. Find Steed. Però dovrebbe essere di livello più alto del famiglio, quindi non mi sorprenderei se ti dà qualche cosa di più. Non so, understand one language. Puoi comunicare con lui telepaticamente, quindi sì, comunicare si intende sia in un verso che nell'altro. Fammi leggere il famiglio. E abbiamo discusso una sera intera su sta roba. Perché già non voleva parlare con suo famiglio. Find famiglia era questo? Sì. Vabbè, non è importante. È uguale. Però lui potrebbe farmi un verso telepaticamente, in teoria. Sì, solo che tu lo puoi fare entro un miglio e lui entro 100 piedi. Boh, vabbè, basta che tiri un latrato. No, puoi, non un latrato. Puoi comunicare tranquillamente, anche perché ti dà apposta intelligente. Comunque, sei. Vabbè, e questo vabbè è solo per eventualmente avvertirmi, se riesce. Ti avverto. E poi... Come si chiama? Hai detto Ade... Adenov. Sì, va di strano. Ti... Vabbè, sto con i miei occhi. Con le mie corna. Esatto. In corna 13, Pietro. E, allora dico, ok, dobbiamo prendere decisioni veloci purtroppo. E, stavo pensando questo, Casimir, aiutami anche tu con la tua esperienza. Questo è un luogo dove regna l'antimagia. Sì. Potrebbe essere un ottimo luogo dove nascondere Irina. Non credi? almeno per il momento. Se nessuno sa che siamo qua, è soprattutto al sicuro da le occhi non canonici, diciamo, modi di percepire in modo arcano la presenza degli altrui che sicuramente Strahd conosce. Quindi almeno qua potrebbe essere celata la sua vista. Purtroppo però bisogna che questa informazione rimanga segreta, perché purtroppo questa torre comincia ad essere abbastanza... Il problema potrebbe essere Pietro. Povero Pietro. Cosa sa Pietro? In realtà lui non sa chi è Irina. Pietro sa chi è Irina? No, è una domanda. Non lo sa, in teoria. È un tizio, che è un ragazzo che passava per strada. Beh, comunque se lo portiamo con noi cercheremo di fare in modo che non cada nelle mani sbagliate. Speriamo. Chiaramente il rischio, cioè quello che voglio dire è che noi potremmo non lo so, può aver senso tornare a Vallachi per recuperare l'abito e magari prendere contatti con la confraternita. Per adesso la mia preoccupazione principale è salvare Smeralda. Sì, però quello che voglio dire è che Vallachi a quant'è da qui? Meno di una giornata. Oh, mi sa che esplode tutto, sai? Oddio. Stavolta mi sa che è esploso. Vallachi, sai? Sì, era un del... No, sembra che sia ancora funzionando. 4 ore e mezza da qui. Quello che voglio dire è che a Kresk difficilmente ci faranno rientrare se a mani vuote. A meno che non passiate inosservati. Già, ma come? È una fortezza. Cioè, neanch'io bramo tornare a Vallachi, però magari senza avere Irina con noi... Mi stupisce che vi abbiano fatto entrare senza chiedervi prima qualcosa. A Kresk? Beh, sì, però Casimir ha intercesso per noi. E cosa avevano chiesto? Ah, ci volevano lasciare fuori, nonostante la nostra richiesta d'aiuto. Molto rude. E non vi hanno chiesto un pedaggio o un qualcosa per farvi entrare? No, ci hanno chiesto? Il vino. Ma noi abbiamo dato il vino. Punto. Sì. Però per farvi entrare, per rispondere alla tua domanda, potrebbe essere un'idea. Lo so. E sicuramente ci porterebbe a scoprire più informazioni su i guardiani delle piume. Capisco cosa vuoi dire. Vediamo. Però al borgomastro avevamo detto che avremmo recuperato. Inoltre, vabbè, questo potrebbe essere un problema, ma secondario forse. Nel senso che al borgomastro avevo detto di riferire nel caso ci avessero cercato i miei ex compagni, che saremmo andati effettivamente dalle vigne. Però quello, vabbè, dovessimo affrontarli, insomma, vedremo un po' la situazione. Se già comunque Irina non fosse con noi sarei più tranquillo. Comunque sì, direi che è fondamentale ristabilire se ci possiamo fidare o meno dei tuoi compagni. Vabbè, perché purtroppo con solo i sospetti non facciamo molto. Sì, ma forse questo non è il momento migliore per... La mia Ovviamente uno che sa ragionare, è incredibile. La mia preoccupazione principale comunque è portare a sicura Smeralda e unire le nostre forze, così che potremo avere veramente una possibilità di sconfiggere Strahd. Sì, Strahd. Capisco, però dovrei, mi sa, cioè, fare i conti come se ci fossi solo io, onestamente. Cioè, non... Cioè, magari alcuni degli altri forse, però non lo so. Cioè, i due che sono venuti con me potrebbero forse unirsi alla causa. Però degli altri tre non... Temo che ormai sia tardi. Però magari mi sbaglio. Ti chiede di descriverli nel caso li incontrasse. Vabbè, li aveva un po' incontrati. No, che li incontrassi, te vieni con noi. Che li incontrassi, cioè, già se per caso non è con te. No, ok, però adesso andiamo insieme, parliamoci chiaro. Cioè... Sì, senfirina, sente il cacciatore da solo. No. Ti stupra. Irina adesso la palla al piede la lascio qua e poi mi porta il cacciatore, sti cazzi. Ma Irina è l'unico motivo per cui non sei morto. Ti devo dire una cosa. Dimmi. Ti racconterò la mia storia. Racconta la tua storia. Io tanti anni fa avevo una famiglia. Devi sapere che il mio odio per i vistani non è infondato. Sì, anni fa rapirono mio figlio e lo vendettero ad un vampiro. Quando li raggiunsi e rintracciai. È vero, per Esmeralda è una vistana. Ti racconto anche di lei. Va bene, lo sì. Quando li raggiunsi era troppo tardi e dovetti trovai mio figlio ormai trasmutato in un essere, e quel bambino era Strahd. Cosa? In un essere immondo, e posi fine alla sua esistenza. Deve essere stato difficile per te. Molto. E trovai in qualche modo la pietà per risparmiare i vistani che lo avevano venduto. Ero ancora giovane e di buone speranze. A quanto pare questo gesto colpì molto una giovane bambina della loro, del loro clan, che disgustata dal comportamento dei suoi parenti decise di abbandonarli e si mise sulle mie tracce. Mi trovò e mi implorò di diventare mia discepola. Io all'inizio rifiutai, ma l'avete conosciuta, insomma, una persona più testarda di lei difficilmente si incontra. E era diversa, non era come quegli altri rifiuti umani della sua razza. E le insegnai quello che sapevo e per lungo tempo i cambi di concentramento lavorammo insieme con ottimi risultati. Purtroppo, come molte cose, col tempo ci sono delle divergenze che è difficile riuscire a colmare, quindi decidemmo di comune accordo di separare le nostre strade per lasciarci ancora col nostro rapporto di amicizia intatto. E questo è stato un bene, perché hai perso la gamba, io no. Non mi ricordo quando l'ho persa, se prima o dopo questa cosa. Comunque la morale della storia è che mi sono fatto diversi nemici eliminando le spie del maligno, e una di queste, una vistana, una veggente, mi ha maledetto. E questa maledizione durerà probabilmente finché respiro, e fa sì che chiunque sia con me venga colpito da una sventura, una maledizione di sventura. Per questo io lavoro da solo. Ora capisco che essere capisco che questa cosa possa voler dire, insomma, dover correre dei rischi maggiori, ma cercherò con tutto quello che è il mio potere di alleviare questo fardello. E detto questo, appoggia la sua mano sul tuo viso E diventi cieco e dice: rimuovi maledizione. Ah. E quindi riprendi i tuoi punti che ti mancavano. Cos'erano? 4? E ritorni 4. Soprattutto con un viso che non è marcio. E no, decadente. Il mio viso marcio. Erano 4? 4. 6 a 51. Ti ringrazio, Van Richten. Ma quindi tu non verrai con noi, se ho capito bene. Sì. Io di solito mi addentro per i villaggi e le città in cerca di informazioni nei tempi in cui le acque sono calme, ovvero quando Strahd è a riposo nella sua cripta, ma qualcosa lo ha svegliato, e a questo punto credo che quel qualcosa sia, sì, la signora qui presente. Sicuramente. Per cui... D'altra parte è anche vero che lui forse adesso è concentrato per recarsi a Kretzk tra un paio di giorni. E non si sveglierà. Cosa pensi di fare? Se tu pensi che questa cosa del vino sia così importante per ricongiungerci a una diciamo una rete di alleati, allora andrei a vedere se riusciamo a risolvere quella cosa, poi tornerei a Kretzk. Questa è la cosa migliore che ho trovato. L'alternativa, cioè sì, anch'io preferisco onestamente che tornare a Vallachi. Poi vabbè, col borgomastro vedremo eventualmente come risolvere. In realtà questa cosa dell'abito mi sembra un po' una cagata. Cioè, nel sono senso... d'accordo. Probabilmente tutto il tempo avete detto che è molto che è qua questo abate. Sì. Ormai, insomma, dall'idea che mi sono fatto è che quel sadico del conte goda nel corrompere ciò che è buono e ciò che è ancora sano, e penso che la sua gioia più grande la faccia di un cadavere, lui è solo vecchio, l'altro adesso non c'è più, e quindi penso che la sua più grande soddisfazione sia vedere quando una mente, insomma, portata per il bene venga deviata e venga condotta alla follia. E mi sembra che questa sia una dei casi che mi avete descritto. E probabilmente, non so se l'avete già incontrato, ha provato a fare così anche con voi. Indubbiamente sì. Una volta addirittura ci salvò da delle streghe, perché ci riteneva importanti per il suo piano. E ci propose, tra l'altro, di andare a cercarti. Maledizione, so già della mia presenza. Io sono qua per ucciderti. E ti ho trovato. E questo purtroppo è un altro motivo per cui, nel caso incontrassimo i miei compagni, forse conviene che tu celi eventualmente la tua identità. Sono d'accordo. Ti chiedo poi un'altra cosa. La tigre invece che... Oh, l'ho lasciata in un posto sicuro. Farebbe comodo. La mia cara, non mi ricordo come si chiama, l'ho addestrata bene. Le ho insegnato a riconoscere l'odore e l'aspetto dei vistani. Perché così... In questo modo voglio essere sicuro di portarmene nella tomba il più possibile quando il momento sarà giusto. E quindi, non riusciamo a recuperarla adesso, è in giro. Vabbè, bravo. No, posso. Andiamo con i genocidi. No, posso andare a recuperarla. Raga, sono dei cazzi di vistari, dai, boh. Risponde... Almeno Strada non fa distinzioni di razza. Risponde ai miei ordini. E non vorrei rischiare che, insomma, una cosa come quella che è successa a Vallachi l'altro giorno. E che cosa avevi in mente? Ah, niente, andiamo a questo punto, andiamo a marciare sulla vigna. No, dico per la tigre. Ah, e portarla con noi. Perché più siamo, meglio è. A quel che ho capito, dicevano che anche Casimir, se non sbaglio, mi diceva che affronteremo molti coli su quella via, e soprattutto se ci sono le spie di Strad non sarà semplice. D'accordo, ti accompagnerò inoltre dovremmo dover affrontare anche i miei compagni se ci si pareranno sulla via. È vero, allora, dato che mi hai detto che Strad sa già della mia presenza, non dobbiamo perdere tempo. Ok, bene, mettiamoci in marcia. Ultima cosa? No, Irina salta su, sguaina la spada e dice: io verrò con voi. No. Irina, è importante che tu sia qui. Strada ti segue ovunque tu sia. È l'unico modo per farci andare per una volta, forse senza lo suo sguardo. Dici forse che sono una palla al piede. Ma per questo che metà tu quasi tutta la compagnia ti vuole vendere. L'hai detto. E lui è l'unico rimasto. Ovviamente la vogliamo regalare. Torneremo a prenderti il prima possibile, ma adesso dobbiamo assolutamente girare in incognito. Sì, perché non siamo sicuri che qualcuno la paghi effettivamente. L'unico modo in cui puoi aiutarci è stare qui. Questa spada spero che tu non debba usarla, ma tienila per difenderti, ovviamente. Lo farò a malincuore, perché per via di quel maledetto sono morta decine e decine di volte e non vedo l'ora di potermi vendicare. Penso tu. Sì, ora sei stata sempre un sacco inutile, cioè sai combattere, che cosa sai fare? Cioè, in teoria lei saprebbe combattere. Sa combattere, poi dall'altra sera che appunto ho avuto questo momento di e della vigna. E della vigna cosa sai tu? Tra parentesi, diciamo che è da lì che viene fatto tutto il vino di. Grande, oh! Vabbè, però non ci sono mai stati. 150 vite sfruttate. Nessuna era al. Ho capito, la massa parte delle vite è andata a Strad e Strad l'ha uccisa. No, è morta prima. Strad non l'ha mai uccisa, sono i genitori magari che l'hanno uccisa. Sì. Lei che si è suicidata. Sì, grazie, Giulio. Cioè. Beh, ce l'ha detto l'altra volta che una volta in internazione era stata uccisa dal padre. Sì, e per vendicarsi Strad ha fatto allagare il villaggio, esatto. E ucciso tutto. Cioè, alla fine Strad è quello che vuole più bene. Esatto, è l'unico che ne vuole bene. Strad non fa distinzioni. Uccidi tutti come me. Ma Strad non vuole uccidere nessuno, vuole solo sposare Lina, è il tuo amico che vuole fare un genocidio. Bene, vi mettete in cammino quindi per tornare indietro. Sì. Ah, gli chiedo anche l'ultima cosa che potrei chiedere. Il carro qui fuori? È di carro di Esmeralda, è per quello che ho capito che era qui. E che cosa ci potrebbe essere dentro? Qualcosa di utile? Assolutamente, c'è tutto il suo armamentario, ma sicuramente è pieno di trappole. Sì. Beh, però tu, chi meglio di te? Io, conoscendo quello di cui è capace, quella testa che sono io, calda, non mi azzarderei a toccarlo neanche con un bastone di 3 metri. Andiamo. Se dici che dentro c'è la sua roba. Beh, so che cosa contiene. Appunto, tra la sua roba ci sono un sacco di cose che possono fare molto male a chiunque sia nei paraggi. Mm. Beh, quello potrebbe quasi essere un deterrente. No, se troveremo Irina, poi avremo accesso sicuro al suo equipaggiamento. Cioè, se troveremo Esmeralda, ok. Sì. Va bene, andiamo allora verso la vigna. Che strada possiamo fare? Che strada possiamo fare? Possiamo evitare di fare quella che abbiamo fatto noi? Nella strada è l'unica che c'è. Vabbè. Quindi. Fa vedere. Vediamo se vi incontrate. Fa vedere. Però allora. In realtà ti conviene fare la strada per cui stiamo arrivando noi, se non andiamo diretti da lì. Non è che ce ne sono altri. Allora. Ah, noi ci mettiamo 4 ore. La vigna è qua. Vabbè, sì. Allora. Da qui voi con cosa vi muovete? Avete... Ah, noi siamo... Adesso prende uno, prende un cavallo anche lui e siamo a cavallo, letteralmente. E io l'alcio. E Pietro il muro. Minchia, comunque siamo dei troppo di bulli comunque noi. Cioè siamo una gran compagnia. Non hai fatto la sua compagnia. Cioè siamo figli, oggettivamente siamo figli, cazzo. Cacciatore di vampiri. Cacciatore di vampiri vecchio e sgangherato. Un mago elfo, anche lui, esatto. Io sono più alce scheletrico. Sì, sei quello messo meglio adesso. Cioè, devastante. Beh, oddio, messo meglio. Loro saranno una decina di livelli sopra di me, quindi... Spero. Spero. E... Kevin direi di no. Beh, Kevin deve essere bravo invece, deve essere forte invece. È un mago. Secondo me è più forte di Irina. No, Irina, secondo me è pippina. Beh, devi ancora testarla. Testarla, era lì che saltava da un cavallo all'altro. Tra l'altro moriva. Perché ho seguito il consiglio di Shea. È una classe. Proprio bello. No, beh, scusa, non hai detto che, non hai detto che è zoppo questo. Non ha la gamba. Che c'ha la gamba? No, la gamba. La gamba di lei. Ah, quindi lei è Goebbels. Non ha una gamba di lei. No, però era zoppo. Beh, sì. No, lui è solo questo bastone molto bello e molto ben decorato. Beh, insomma, può zoppino sarà anche lui, quindi secondo me... Ha i suoi annetti, poverino. Va bene, dai. Allora, quindi state andando in direzione opposta. Per cui... Ma prima becchiamo i cavalieri di Dio. Dipende fin quanto vanno avanti. Non so, e dipende se torneranno indietro. E dipende quale strada fanno. E quale strada fanno. Cioè quella più da cavalieri. O quella da pusillanimi, no? Esatto. Allora. Ma che conoscenza, stanno arrivando per aiutarti, cazzo. Ah, ma al massimo vengono con noi. Certo. Ah, ma adesso sì, alla grande se li trovo. Cioè, se fanno la stessa strada. Beh, li trovo e gli dico... Vi hanno ingannato! È tempo di guerra! Seguitemi! Così che Vardist hanno ucciso tutta la sua compagnia. Minchia, dopo sì, se li troviamo, proviamo a ucciderli, dai. Beh, che buono sta per la vita. Minchia, sei già sorpreso, sopravvivo solo io. Esatto. Non credo, però. Cioè, è incredibile. Se invece come... È la compagnia dei razzisti. La cosa più probabile è che muoia io, però se no... Non succede, ma se succede. Allora, devo vedere, va bene, quindi. Intanto sia Salla che Vez mi tirato un D20. Sì. Classico, 16. Ok, Salla. Aia, 16 è quello che succedono cose cattive, però. 19. Ok. Allora, just fight. Anche i cavalieri non ti dà. Se vogliono fare la strada del bosco. Se vogliono fare la strada del bosco. Beh, già comunque ho sgavagnato Irina da qualche parte. Questo mi... Cosa? Allora. Che ci vuole... Bisogna disterminarci. Ma sì, ma infatti lui è uno stronzo, cioè. È il vero cattivo. Vabbè, in realtà anche voi volete uccidere me. No. No, in realtà io non voglio uccidervi, però quando mi attaccherete, dovrò comunque difendere. In realtà io voglio evitarti andare da lì. Allora. Ed è per questo che... Salla, un di 12 più un di 8. Non sai dove eri. Tira un di 12 più un di 8. 18. Devo sommare? Sì. Ah, e poi è vero, c'è anche Pietro con noi. Sì. Quindi la compagnia è ancora migliore. Ok, c'è lo scudiero. Quanto 13, Pietro? Anche tu, Vez, un di 12 più un di 8. Che è il numero di lupi. Aspetta, di 2. Il numero di lupi si sono fottuti. Eh sì, è vero, voi queste robe non le avete dovute fare perché siete andati indietro. Abbiamo fatto anche noi, abbiamo preso un po' l'annale. E avete fatto la parata. Gli eroi di Vallachi sono tornati. Mentre noi soffrivamo. Come dei cani. L'avete scelto voi, non è che noi abbiamo detto andate a soffrire. Come dei cani. Cioè, tutte le tue scelte. 8. Tra i più 5 e 8. Ok. Che cazzo è? Il nipote distratto. Gli eroi di Redsmir. Ma come si chiama? Radin. Gli amici. Allora, aspetta che devo guardare che cazzo è sta roba. Terrasco. Passami il manuale dei mostri, per favore. Aspettavamo anche per non fare lo scontro, cioè, è obbligatorio. No, ma infatti sarà il cliffhanger di questa sessione. Beh, ci sta, invece sono tipo 20 sessioni che non... È vero, mi dispiace. Inoltre lo saliamo di livello. Però saliamo solo noi tre, dai, ci sta. Dai, splitta. Beh, anche perché ci sono alcuni che non fanno un cazzo. cazzo, tipo 6 sessioni. Sì, basta, sì. L'as è andato. Alleatevi con me, uccidiamo l'as. Cosa? L'as è l'unico che può uccidere strada, vedi tu. Ma cosa mi fa a uccidere strada? Tu sei l'unico che può uccidere strada con l'arma che ha l'as. Esatto, l'as non la può usare. Quindi... Ma che arma? Il medaglione, fa schifo. L'as è medaglione per uccidere strada. Ma chi ha detto che uccide strada quello, esattamente? Vabbè, ciao Verzi, sei perso. Ma chi è che quando l'ha detto? L'AS l'ha preso. E ti ha detto Giulio l'altra volta. Io ho detto che aveva poteri e poi l'abbiamo fatto analizzare all'AS ed è il medaglione per uccidere i vampiri. Cioè, è il medaglione per uccidere i vampiri. Quindi non è stata una scelta ideale andarsene via, Verzi. Sì, però diciamo che... Infatti non mi sorprende che voi non l'abbiate ancora bruciato. Che cosa? Ma non ce ne frega, tu non hai capito una cosa, a noi non ce ne frega un cazzo. Però è vero, perché l'AS non ha dato quello impegno? Oh, mentre mamma l'AS ci pensava è scomparso, quindi... no, è scomparso l'AS, nel senso come giocatore, quindi... Cioè, tipo io sono contento sia se muore strada, sia se sposa Irina, non me ne frega una sega. Eh no, lo so. Ah, è un evento... Cazzo, pensavo fosse un incontro, cioè una creatura. È una situation, penso. Questo. La mia situation. Una sfortunata serie di eventi. Tra l'altro il tizio sembra quello di che fa Jim Carrey, Lemony Snicket. Che tizio? Ah, nel Lemony Snicket, è vero. Uguale. Il conte... Ah, si chiama Conte anche lui? Sì, tipo quello. Olaf, Conte Olaf. Sì. Grande. Allora. Ok, voi due state camminando e sentite il rumore degli zoccoli. E ci nascondiamo. Google di merda. State camminando. Adesso che cosa mi dici? Theodore Woodward, Wikicode. Strad. Ci penso io. Strad is the best. Nascondersi subito. Vai. Come funziona le prove di gruppo? Che metà li passano, però siete in due, non so se vale come gruppo. Fatto 20 naturale. Questo è un 28, carta. Oh. Ma quella è tipo la cover del latte in realtà. Sì. Cazzo, anch'io ho fatto un 20 naturale. Peccato quello svantaggio. Quindi ho fatto 13. Vabbè, ma il mio 28 è tipo che io lo prendo in braccio. 15. Porto, vabbè, dai, ho fatto comunque un onesto 15. Vabbè. Ma scusa, loro cosa stanno facendo? Stanno seguendo le tracce dei cavalieri. Sì. Mm. E siete arrivati nel punto, nel bivio, dove è facile incontrare cose. Ok, vedete spuntare dalle nebbie, dal vostro nascondiglio, un cavallo scheletrico. Cioè, noi lo vediamo dal nostro nascondiglio, non è che spunta dal nostro nascondiglio. No, spunta dalle nebbie. Nel vostro nascondiglio. Questo cavallo scheletrico sopra il quale sta questo scheletro cavaliere, coperti di questa vecchissima cotta di maglia. E il cavaliere tiene una lanterna arrugginita che non fa nessuna luce. E mentre parla, vedete, voi lo guardate e dietro di voi che lo guarda c'è anche un altro arbusto. Praticamente questo vegetale, alto come una persona, è ricoperto di spine, che è lì nascosto insieme a voi. Ma io ho fatto 28, quindi sono invisibile anche a lui. Cioè, non ti puoi nascondere da uno che ti sta vedendo. Cioè, non ti puoi nascondere da chi si nasconde con te. Un needle blight. Adesso lo faccio vedere. Vabbè, se ha paura di lui siamo fatti. No, non ti puoi nascondere da ciò in cui ti stai nascondendo. che si chiamava arbusto maligno. Ah. Okay. Una specie di umanoide vegetale. Questo però è un mio grande classico, in realtà. Cioè l'andare in qualche parte dove pensare di essere al sicuro e poi trovarci qualcuno. Però lui sta guardando lo scheletro. Sì, adesso è appunto nascosto, è come se fosse nascosto di fianco a voi che allora lo guarda passare. Lo guardo e lo... lo ti riguarda e non capisce. Ma di un celestiale. Forse capisce lì. Dall'altra parte della strada vedete arrivare una carovana praticamente con Vardistran e altre persone a cavallo che vanno incontro allo scheletro che si incrociano nella strada. Ma perché? Siete passati di lì allo stesso momento. E perché si va andando incontro a questo scheletro? No, è lo scheletro che stava passando per la strada. Voi state io continuo a guardare l'arbusto che avreste fatto normalmente. Va bene, quindi e per caso sto scheletro a cavallo passava di lì. Ok, quindi lo attacchiamo. Sì, la prossima volta inizierà con voi che caricherete no, questo scheletro. È forte? No, più che altro sono gli altri arbusti insieme ai quali si sono nascosti. Lo scheletro è una stronzata. Allora faccio uccidere lo scheletro. No, siamo amici degli arbusti. Magari di quello che mentre tu uccidi lo scheletro sì, che poi non ho mai bruciato una foresta, non hanno nulla contro di me. Esatto, finché non sono dei cavalli sono tutti al sicuro. È probabile che questo combattimento avrà un'iniziativa unica per tutti noi. No, e poi dopo il combattimento immagino avrete da dirvi qualcosa, quindi magari meglio se lo facciamo con calma la prossima volta. Mi dispiace rimandare ancora il combattimento che è da tanto che sognate. L'importante è che tu ci faccia salire. Non dipende da me. Quindi noi tre saliamo. Non dipende da te. Dipende da voi. Certo. Hai detto questo, Carta, quindi saliamo noi. Ci sono... Ah, dipende da noi, è vero? Quindi capisco cosa vuoi dire. Livello 10? Quindi 10. Facciamo 10. 10. Va bene, dai. È stato carino. Prima o poi arriverete alla dineria. Ma io lo voglio bruciare. Vabbè, l'importante è che ci arrivate, non mi interessa. Poi fateci quello cazzo che vi pare. Così poi posso fare. Alla vigna. Ma che palle questa vigna! Io lo voglio bruciare. Non libera, cioè ah, non è. Finché non andiamo alla vigna non saremo di livello. Porca trova. Che palle, cioè, è un gioco fatto di merda, cioè missione secondaria e noi dobbiamo fare questo. Noi potremmo uccidere Strad, ma finché non andiamo alla vigna. È che si sbloccano delle cose in seguito a certi achievement, certe sì, azioni. Ho capito, ma game design è fatto qualcuno. No, è sandbox. Poi io voglio un po' indirizzarvi anche perché invece di dovermi preparare tutta un'avventura ogni volta mi preparo un capitolo. Cioè, che è un po' più comodo. Sì. Okay. Scusa, facci fare le cose a cazzo, non devi preparare nulla, vieni qua. No, devo preparare molto di cose. No, no, segui quello che diciamo noi. Poi ogni tanto butti le mostre a caso. Cioè, stiamo guidando in una nuova avventura. Non finiamo mai più. Ma scusa, ma chi se ne frega? Cioè, tutte le campagne che ho masterizzato io, mi preparavo qualcosa? No. No. Sì, l'abbiamo finita, sta cosa l'abbiamo finita. Beh, quella di Urban, io non ho mai preparato una sega pure. Così si fa. Si va, e i giocatori giocano, cioè, e poi lasci ogni tanto dici qualche cazzata. lo so, devo imparare dai migliori. Quindi senti qualche podcast. Esatto. Beh, sì. No, quando uno si prepara non va mai così. Segui lo fumble, alla fine. Effettivamente. Va bene, dai. Ci vediamo alla prossima, che è quando sarà? Lunedì prossimo? A questo punto. No. Quando è che vai? Ah, sì. Cos'è? Qual festa lunedì prossimo? Cosa festeggia noi in Danimarca? Non è Danimarca, è Fredrik. Io è tipo 3 settimane che non faccio mai 5 giorni di lavoro perché un giorno a settimana è festa. Bello! Mi piace però, è un bel paese, quasi quasi. Tra l'altro è bellissimo perché col fatto Perché? Perché non te ne frega un cazzo? Perché me ne frega solo di avere il mio stipendio. È un lavoro come un altro. Perché non ti interessa il progetto? No, sì, mi interessa, però è comunque il mio lavoro, non è che devo passarci tutto il giorno. Cioè, se avessi fatto tipo il dottorato, ci avrei passato tutta la notte. Ah, perché a prescindere da come vada, c'è lo stesso. Sì, a me. La disillusione di Saladino. No, vabbè, è che non è che posso vivere lì. Vabbè. Lunedì prossimo allora proviamo. Direi che va, dovrebbe andare benino. Va bene, grazie per averci seguito e ai prossimi episodi con Tycoons and Dragons. Sì, magari vediamo di menare un po' le mani. Guarda come scrive la cosa. Sai che lunedì prossimo, caso strano, potranno tutti. Infatti. Però potrebbe essere un problema.